Buonasera, spero di non disturbare il suo lavoro così importante per la pace. Amica, è rare la zanzara. Sono il Santo Padre. Qui alla zanzara fanno sempre questi scherzi. No, sia guardi, Cruciani, non, sia non è uno scherzo questo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Ormai questa canzone Forza Italia si sente solo negli stadi, si sente solo nelle arene, si sente solo nei bar oggi, non si sente più nella politica, non si sente più. Dove stai vedendo la partita, caro David? Non tu che non capisci mai, io urlerò solo Forza Azzurri, Forza Azzurri. Allora, la prima domanda comunque è questa. Sono a casa, a sì, sei a casa, non si sente nulla. Dunque, adesso ripristiniamo il collegamento. Si sentirà... Non si sente niente? No, pochissimo. Si sentirà meglio sicuramente fra poco da Recife con Pierluigi Pardo, su questo non c'è dubbio. Ho fiducia nel collegamento con Pierluigi Pardo, mentre siamo alle 9, al 9 minuto e 48 secondi, risultati di 0-0. Allora, la prima domanda però che mi viene in mente è questa: ma oggi che cosa cazzo stiamo a fare in diretta noi? Perché oggi mi è venuto questo piccolo dubbio. Questa è un'ottima domanda. Non si sente comunque una mazza, Parenzo, eh? Siamo tutto regolare, cioè non si sente niente. Oggi cosa minchia stiamo a fare in diretta? Perché ci hanno chiesto di stare in diretta anche oggi? Tre quarti d'Italia è fissa davanti alla televisione a vedere gli azzurri. I miei amici sono tranquillamente in Brasile a vedersi la partita. La gente è uscita prima dall'ufficio. Chi lavora in realtà fa finta di lavorare. Noi qui in diretta nel nulla più assoluto. C'è sicuramente qualche sfigato, qualche persona a cui non frega nulla della partita, che ci chiamerà, che ci parlerà di altri problemi. A me personalmente oggi non me ne frega niente, comunque lo faccio, perché lo devo fare, dunque lo faccio. Siamo qui, dunque allora iniziamo. Voi che siete in macchina, voi autisti, voi guidatori di camion, che non ve ne frega nulla e siete malati di zanzara, siamo qui anche per voi. Io ricordo solo Fantozzi, va, voglio ricordare Fantozzi oggi. Sabato 18 alle ore 20:25 in telecronaca diretta da Wembley, Inghilterra-Italia, valevole per la qualificazione della Coppa del Mondo. Fantozzi aveva un programma formidabile. Calze, mutande, vestaglione di flanella, tavolinetto di fronte al televisore, frittatona di cipolle per la quale andava pazzo, familiare di peroni gelata, tifo indiavolato e rutto libero. Ecco, io mi sento oggi un po' come Fantozzi, devo dirvi la verità, cioè mi sento come Fantozzi, cioè ero pronto a questo e dice no, devi andare in diretta lo stesso, ma cosa cazzo ci vado a fare in diretta che mezza Italia, tre quarti di Italia se ne fotte di quello che diciamo oggi, già se ne fotte in tempi normali, ma figuriamoci oggi. Parenzo, fai un appello alla direzione di Radio 24, stoppiamo questa diretta. No, nessun appello, oggi c'è soltanto Pirlo, sai che Pirlo è rom di origine? Ma che rom, ma quale rom? Dirlo a questi amici di origine di una famiglia rom, il mio amico Pirlo, noi siamo tutti Pirlo, tutti Balotelli oggi, la multietnica squadra dell'Italia. E lo dico qui, nella città governata da un signore che si fa chiamare Bitonci. Ah, ma sei tornato a Padova dunque, sei tornato. Ma dire questo, ma si chiama Bitonci, si fa chiamare Bitonci questo signore. Beh, perché è il sindaco della tua città, qual è? Ma è un cognome Bitonci. Beh certo, perché che cos'è adesso? Te la prendi pure col cognome di Bitonci. In collegamento da Recife, Pierluigi Pardo, caro amico, come va? Come va? Bene, bene, si sente meglio il mio telefono da Recife che quello di Parenzo da Padova, eh. È il giorno del giudizio per la telefonia italiana, 1-0. 1-0 per Pardo, oddio, si sente bene, è veramente una parola grossa, comunque si sente, diciamo che si sente. Senti, come sta andando? Io sto guardando il televisore perché mi hanno strappato alla partita in questa inutile giornata, per stare in diretta, ma lasciamo perdere. Senti, ma come sta andando? Lì mi sembra... telecronista sportivo? No, che telecronista, non posso fare. Fai un po' il telecronista, dimmi un po' come sta andando, dai. È 13-0-0 fra Italia e Costa Rica, prima occasione per il Costa Rica, al sesto minuto Barzagli ha chiuso su Seisena, qualche istante dopo Bolanos sugli sviluppi del calcio d'angolo ha colpito alto di testa, sempre 0-0. Italia un po' contratta fino a questo momento. A te Luzzi. Ah no, scusa, Cruciani. Vabbè, diciamo che la sintesi è perfetta per adesso, eh? Diciamo che l'Italia è un po' in affanno, santo Barzagli su quell'intervento lì, però insomma siamo ancora agli inizi. Ma fa caldo? Fa abbastanza caldo, devo dire che in tribuna la percezione ovviamente è diversa perché saremo 30 metri sopra, ma attenzione all'Italia che attacca con Abate, possibilità per uno contro uno, pallone verso Marchisio, quindi c'è l'appoggio per Thiago Motta, sale Thiago Motta, palla che viene girata verso Darmian, uno contro uno, può andare Darmian, c'è la pressione su di lui, niente, l'azione se si sbrigavano, io non posso fare la diagramma. Vai, vai, vai, Thiago Motta, vai, vai, continua, allora, continua. Palla là fuori gioco, fermato a palla in posizione di fuori gioco, era quasi sulla linea dell'area di rigore della Costa Rica o del Costa Rica, abbiamo capito che si può dire tutti e due i modi. Abate che è il grande ripescato della giornata, grande ripescato che c'era di pochi centimetri, ma c'era, dunque si rimane sullo 0-0, 14 minuti 8 secondi, sempre 0-0, linea a Radio 24. Siamo come lei, siamo come lei. Allora, 16 minuti 0-0 con il Costa Rica che attacca, l'Italia un po' contratta, questa è la sintesi. E intanto nella tua Padova, caro Parenzo, è iniziato un giro di vite, finalmente è iniziato un giro di vite. Questo sindaco, questo mi senti meglio spero ora, questo signore cosiddetto Bitonci, perché la chiamano cosiddetto Bitonci, dice che vuol far sgomberare tutti i barboni dalla certo, città. Multe anti, e anche multe anti-accattoni, ruspe e multe anti-accattoni, sfollati, ecco, i campi nomadi e si studiano, ecco, e si studiano voi, ordinanze contro i barboni, ma una cosa stupenda, ottima, ottima. Voi certo, odiate la povertà. Ma è una cosa ottima, una grande barbone, stretta sulla sicurezza, viva Bitonci, forza Bitonci a Padova, ordine, ordine e pulizia a Padova, ordine e pulizia a Padova. Guarda che è ordinatissima. Era una città ordinata. Se era ordinatissima, votavano l'altro. No, se era una città ordinata e tutto funzionava, votavano l'altro. Ma evidentemente c'è qualcosa che non andava prima, no? Ma guarda, guarda, come suona il nome Bitonci? Sì, una parola onomatopeica. Guarda, tu sei di Padova e hai già detto che non è il tuo sindaco. L'hai già detto una volta, attirandoti le inimicizie, attirandoti l'odio di quella città. Ma che odio! La gente ha anche chiamato a casa dei tuoi. Questa è una cosa che non si deve fare, ovviamente. Per carità di Dio. No, no, per carità. Per carità, per carità. Ma abbiamo il collegamento con noi, sempre 0-0 con il Costa Rica che attacca. Un ma nuovo... voglio capire questo dal signor Pardo, perché il signor Pirlo è di origine rom. Ha smentito di essere di origine rom in una sua biografia. Pierluigi, diglielo tu, va, che non capisce niente, Parenzo, dai. Sì, è vero, è tutto vero, ma attenzione che Costa Rica attacca. Adesso io non so se il problema di Padova o i problemi di Padova in questo momento siano prioritari. Non so, la pancia del paese, la pancia del padovano in questo momento. Che dice? Che sta, se no, si interroga, guarda, caro Pago, qua ci si interroga sul, a Padova, i leghisti si interrogano sul fatto che se Pirlo è di origine rom, si ruba il pallone, dicono a Radio Padania. Ma questo non è di origine rom, dai. Non bene, non bene, non l'ha bene, smentito. Vai, Pardo, come sta andando? Non ho capito come sta andando qui. Come sta andando? Me lo spieghi? Sta andando, è il 18esimo, attacca solo Costa Rica, fa un po' te, però insomma grandi pericoli non ne abbiamo avuti fino a questo momento. Adesso ci sarà un calcio d'angolo per Costa Rica, pronto Campbell sul punto di battuta, prendono coraggio i tifosi centroamericani mentre noi siamo tutti nella nostra area di rigore, è arrivato anche Balotelli a dare una mano, occhio alle indicazioni, ma occhio anche ai saltatori. Junior Diaz arrivato là dietro per saltare, stiamo esagerando, dimmi tu, No, vai, vai pure, vai tranquillo, sentire la pancia del paese, sei il top, sei il top, vai avanti, sei il top, vai. Vittorio da Montebelluna, no, c'è un attimo di ritardo nella battuta di questo calcio d'angolo, Buffon dall'indicazione di difesa, Balotelli al suo fianco, praticamente tutta la nostra squadra nell'area di rigore con la sola eccezione di Candreva che adesso è uscito, occhio a Campbell sul punto di battuta, ci sono quattro saltatori del Costa Rica, palla profonda, secondo palo lunghissima, troppo lunga, prova ad arrivarci comunque Oscar Duarte, tiene in campo il pallone, possibilità per uno contro uno, Chiellini in pressione, occhio al cross, Chiellini allontana, viene letteralmente abbattuto, una pallonata violentissima quella presa da Chiellini che si accascia a terra, dunque adesso arriveranno ovviamente i medici, vedo già il professor Castellacci, conosci il professor Castellacci? Come no, quello con i baffoni, come no, mitico. Con Giovanni di Aldo, Giovanni e Giacomo, Sì, quasi uguale direi, quasi uguale. Vabbè, anche Renzo Montagnani mi dice il collega di Mossi del secolo grandissimo, a Genova siete contenti del sindaco Doria? Sì, certo. certo, loro sì, io no. Ma la pancia di Genova, com'è la pancia di Genova? La pancia di Genova adesso è tutta qui concentrata su Italia Costa Rica, oltre che piena di peso e pensaroli. Grande Giampiero Di Mossi del secolo XIX. Ma abbiamo con noi, Pardo, fermati un attimo, abbiamo con noi al 20° del primo tempo 0-0 tra Italia e Costa Rica. Ragazzi, io queste cose qui non le volevo fare, io oggi non volevo andare in onda. Gente che siete in tangenziale, camionisti, autisti, chiamateci, dateci una mano. Matteo Salvini, segretario della Lega Nord, ciao Matteo. Ciao Beppe, però mi sento molto tappabuchi a questo punto, visto che siamo non siamo in cinque, tappabuchi, sai che poi non è comunque che... Comunque sono qua all'area di servizio di Dorno, sulla Milano-Genova. Beh, come no, tu neotifoso dell'Italia non guardi l'Italia oggi. Beh, io sono uno di quelli che provano a far la furbata dicendo c'è casino sulla Milano-Genova, io parto esattamente alle 18 così me l'ascolto in radio e spero di non trovar casino. Ah, così, ma in realtà, diciamo la verità, questa cosa che tu sei diventato tifoso dell'Italia, che abbiamo rivelato noi... A parte che non gliene frega niente a nessuno, io vabbè, insomma, moderatamente tifoso dell'Italia, anche se per me il calcio comincia e finisce col Milan e comincia e finisce a San Siro, tutto quello che succede fuori da San Siro mi interessa relativamente. Ecco, ma tu sei stato... Forza Italia o no? Sì, Forza lo Italia, dico. Lo urli? Sì, oggi lo urli. No, ogni volta, quando mi alzo la mattina, quando vado a letto la sera, urlo Forza Italia, una dozzina di volte al giorno. Sì. Cioè, ma voglio dire, adesso, tu hai detto noi l'altra volta, meglio l'Italia di altre squadre, posso fare tranquillamente il tifo ma per l'Italia. Ma abbiamo un'ossatura padana, c'è Gigi Buffon, c'è Mattia De Sciglio, c'è Marchisio, c'è Pirlo alla faccia dell'unico padovano che non ha votato Lega e che godo come un riccio al fatto che sia circondato dalle chicche. Quello godo anch'io. Ma scusa, che c'entra ossatura padana? Cioè, perché sono molti leghisti, ci sono nella Lega in Italia? Ma che ne so, io non ho più pari idea cosa voti, non ci sono dei giocatori che mi piacciono perché sono tosti. Beh, ossatura padana, hai detto, ossatura padana. Cioè, gente del nord, dici, gente del nord. Sì, Marchisio. Beh, Balotelli stesso, Balotelli. Balotelli da milanista, un colorito da milanista. Balotelli, però io fin dal primo momento da milanista, lo dico da ultramilanista, Balotelli non mi piace. Sarà politicamente scorretto. No, perché politicamente? Quello che volete voi. È perché uno deve dire che bello l'Italia che va avanti, un ragazzo di colore, bresciano. E che cos'è che non ti piace? Non mi piace, non ha testa. Ah, non per la testa, testa tu dici, non per ha la testa. Testa. Sarà un campione in campo, ma cioè tu vorresti campo... che il Milan lo cedesse, dici, già ci sono delle voci. Sì, assolutamente. Cioè subito proprio col pacco ne regalo. Ne compriamo altri tre, sì, assolutamente. E mettiamo Bitonci al posto di beh, anche Parenzo non è uno di quei cognomi, voglio dire, che uno si rifà. Ma poi che c'entra? Perché ce l'ha col cognome Bitonci? Non ho capito perché ce l'ha col cognome Bitonci, Parenzo. Perché Bitonci è di Cittadella, non è di Padova. Oddio, ma chi se ne frega? L'hanno eletto a Padova, su, Parenzo, fattene una ragione. La tua città ha un sindaco della Lega, fattene una ragione, punto e basta. Aspetta che c'è qui un rom sotto casa mia, scusi, signor rom? Dai, basta. Sta camminando un rom sotto casa, adesso chiamo Bitonci, però c'è un rom che cammina. Cammina. Oggi Parenzo sarà felice perché è la giornata mondiale del migrante, quindi certo, Parenzo oggi... Certo, si troverà, ho fatto suo anche agio. Un appello ai miei amici migranti affinché chiamino migra tutti. Anche tu, Parenzo. Radio chi, chi si somiglia, chiesto, si piglia, migra. Ho chiesto vai ai miei amici migranti di chiamare ogni giorno Radio Padania e parlare in arabo. Trasformeremo quella radio nella più grande radio multietnica italiana. Una babele di voci, cinesi, iraniani, algerini, marocchini. Cadi male, io adoro la diversità, anche te adoro, quindi adoro le minoranze, adoro la gente in difficoltà, quindi va benissimo. Scusa un attimo, ma per te la sfiga maggiore se questo mondiale lo vince la Germania, diciamo, se il mondiale lo vince la Germania è una catastrofe. Mi vedo la Merkel che saltella con la sua pancetta, no, inguardabile, imbarazzante. Cioè se l'Italia, se la Germania vince il mondiale per te è proprio una roba, a quel punto chi li ferma più? Chi li ferma più? No, cioè no, tu pensa, lo sai faccio, che il mondiale il... Faccio come Pardo. Adesso cioè? Non è che i mondiali siano l'inizio e la fine del mondo. Beh, però portano, come sai, portano grandi vantaggi economici, il PIL, cioè, è stato calcolato più volte questa cosa qua. Cioè non è che sia una roba da poco. Cioè vincere un mondiale porta un sacco di vantaggi anche dal punto questo di vista è vero. Di Ecco, i tedeschi ne hanno già fatto bingo con l'euro e con le normative europee, quindi anche se non vincono il mondiale va bene lo stesso. Ecco, ma l'immagine della Merkel che alza la Coppa del Mondo a Rio de Janeiro, che immagine Ginevra per Matteo Salvini. Ma la sua Coppa del Mondo l'ha già vinta in economia, quindi la Coppa del Mondo mi fregherebbe poco, però preferirei vincesse chiunque altro. Tutti tranne la Germania, diciamo. Tutti tranne la Germania. Vabbè, non è più la Germania di Klinsmann, Breme e Matteus, quella era una Germania, questa è una roba, una sciacquetta. Perché? Come una sciacquetta? È fortissima, che dici? Ma no, ma vince. Cioè, dici, l'hanno dovuta riempire di... Che è successo? Chiedo a mio figlio, chi vince il mondiale, Fede? Figlio. L'Olanda è candidata. L'Olanda è candidata. Federico se ne intende. Potrebbe vincere. Ecco, mi piacerebbe vincere l'Olanda. Ecco, l'Olanda. L'Olanda, senza nessun immigrato in squadra. La Germania ha troppi immigrati. Cioè. La Germania ha troppi immigrati. Kedira, Ozil. Per vincere il mondiale hanno dovuto riempire di immigrati. Comunque, figlio di Salvini dice: Federico Salvini dice 2 punti, vincerà l'Olanda. Questa è la cosa. Vince l'Olanda? Sì. Che dice? Anche la Germania, no, censuro, ha detto che potrebbe vincere anche la Germania. No, niente. Ma lui fa il tifo per l'Italia, tuo figlio, o no? Tu fai il tifo per l'Italia, sì, Federico fa il tifo per l'Italia. Ma sì, gliel'hai detto tu adesso, ma gliel'hai detto. No, tu tifi Italia? Sì, no. Ah, beh, sì. Però lo dice con molta più decisione rispetto a te, Matteo. Sì, lui è cresciuto in altri tempi e quindi, ripeto, lui non ha visto vincere il Milan quello che ho visto vincere io. Quindi... Vabbè, però, comunque, se l'Italia vince il mondiale, cosa impossibile, ma se l'Italia dovesse vincere il mondiale, tu che fai? Niente. Cosa faccio? Che ne so, fai un fioretto, canterai l'inno italiano, canterò l'inno per la prima volta in vita mia, canterò l'inno. Non faccio l'ipocrita, non tifo contro, ma non sono uno di quelli pronti a fare il bagno nella fontana. Vabbè, quello no, però ti fa piacere. Ma sì, se c'è qualcuno in difficoltà, qualche esodato, qualche disoccupato che lo spera, lo spero anche io. Però scusa, lui. Uno che vuole fare il leader del centrodestra, no Parenzo? Sì. Uno che vuole fare il leader del centrodestra. No, io non voglio fare niente. Ma com'è? Io mai nella vita mi sarei sognato che qualcuno potesse prendere come riferimento Matteo Salvini. Vabbè, diciamo che l'Italia è ridotta ai minimi termini. Però, vabbè, d'accordo, però è sul... prima occasione per l'Italia, Thiago Motta tiro fuori dopo 26 minuti, primo tiro in porta dell'Italia. Però allora dico una cosa, è finito Pardo, che nei momenti Pardo, prima occasione lì, dell'Italia, Pardo? Finito, Pardo, no, ci sono, ma un sacco di cose da dire. Primo, l'Olanda, se vince l'Olanda trovo crescere, ma che vuol dire? Poi Brescia è la capitale di questa nazionale. Pirlo, Balotelli, Prandelli, ormai bravo, la anzianissima Brescia è andato di fatto. Brescia che ha dato i natali a Franco Baresi è terra, anzi travagliata per l'esattezza, travagliata. Vabbè, allora prima occasione Italia, che c'è stato? Un tiro di... prima occasione, scusa, era un attimo, avevo derogato il mio ruolo istituzionale. Sì, l'Italia ha avuto la prima opportunità vera al 27esimo, conclusione larga di Thiago Motta, si rimane sul risultato di 0-0. Adesso Pirlo, il bresciano Pirlo cerca il bresciano Balotelli, c'è la copertura da parte di Gonzales e ancora recupera il pallone con Darmian. Quindi Balotelli, siamo al cerchio di centrocampo, il retropassaggio nella zona di Chiellini, il trucco verso Pirlo, però deve fare qualcosa Pirlo, attenzione, posizione, intervento irregolare su Pirlo da parte di Ryan Ruiz, linea Salvini, al signor Salvini. Allora, da Pardo, da Pardo, eliminiamo Parenzo, dai, isoliamo Parenzo. Allora, torniamo tra qualche Salvini. Minuto. Fermo. Che c'è? C'è un immigrato di colore che corre, forse ha rubato di sicuro. Come mai corre? Ma sta correndo un immigrato. Sotto casa mia c'è un immigrato che corre, chiamatevi Tonci. C'è un immigrato che corre. Che coglione. Guardalo lì, è un immigrato, guardalo. Chiamami Tonci, papà. Finalmente questa città di Padova. Anzi, a proposito, è vero che hai dovuto insistere fino all'ultimo per la candidatura di Bitonci? C'era qualcuno nella Lega che non lo voleva? Adesso non frega niente a nessuno. Però è interessante questa cosa, sì o no? No, vabbè, adesso questa l'ho saputa, è vera questa cosa qua. Noi andiamo sempre d'accordo. Vuoi che si litighi? Noi ci compattiamo. Il giorno in cui Parenzo verrà scippato da uno di quelli che corre, io mi metto per terra a ridere e vado avanti per 20 minuti. Aspetta, che è in bicicletta, l'avrà sicuramente rubata. Quasi certo. Poi posso chiedere a Parenzo, oggi il governo ha deciso di dare 8 euro al giorno per i detenuti che stavano stretti in cella. Lui ovviamente sarà entusiasta. Dovevano dargliene 10 perché già vivono in condizioni disastrate, no, questo è un tema molto serio. Ma non è una, è chiaro che non è un albergo, ma vivere in 8 in una cella che è omologata per 2, ad esempio, credo che sia da un punto di vista del diritto umano un problema, credo. Fa male solo a chi non sa ridere, e la zanzara. Vabbè ragazzi, siamo stati 7-8 minuti lontani dalla partita e in realtà è successo di tutto, sempre 0-0, 37esimo, Pardo, Balotelli si è mangiato un gol, non c'è Pardo, Balotelli si è mangiato un gol, però però ha parato pure un tiro Buffon, dunque insomma, occasioni pari. Parenzo, ci sei sempre? Ci sono sempre, sto monitorando dal mio balcone la situazione qui in città a Padova. È appena passato un migrante con la bicicletta, beh, io ho subito denunziato e chiamato il numero verde del comune per segnalare che c'era un immigrato che passeggiava per la città. Ecco. Pierluigi? Papà, scusa, se vedi qualche immigrato. Aspetta, Pierluigi. Segnaliamolo subito a Bitonci. Che no. Abbiamo fatto? Ci siamo mangiati un gol con Balotelli clamoroso, però anche loro hanno avuto un'occasione. Due palle gol clamorose per Balotelli, la prima gestita malissimo, la seconda centrale. Insomma, diciamo, quando gli attaccanti hanno delle palle gol e le sbagliano, si dice sempre che comunque è meglio che non averle, perché vuol dire quantomeno che ci sei arrivato, però certo poteva fare sicuramente meglio. Poi c'è stata una conclusione di Bolanos al 36esimo con Buffon sicuro. Vabbè, Italia leggermente meglio negli ultimi 10 minuti, proprio leggermente, o sbaglio? Leggermente, però abbiamo bisogno di qualità davanti. Io credo che insomma qualcosa potrà succedere nel secondo tempo se si rimane così. Tu speri sempre che entri Cassano, speri sempre. No, questa è una tua visione di parte, come tre Darmian recupera un buon pallone, siamo sulla tre quarti nostra, palla per De Rossi, vede che Cassano però è una soluzione, è un'opportunità, o insegno Cassano, però se si dovesse rimanere con questa situazione secondo me un po' di pericolosità in più dovremmo averla. Conclusione intanto col sinistro di Brian Ruiz, centrale, nessun problema per Buffon. Torniamo a bordo campo da David Parenzo. David, eccoci. Ma quando si dice nessun problema per Buffon si intende che ha parato bene, no? Nelle riprese calcistiche. Devi sapere che non capisci una mazza, Parenzo, per cui spiega bene. Aspetta, sì, che c'è un migrante che si sta disimpegnando a destra. Scusi, che cosa fa lei? Ah no, tornava a casa, semplicemente, è un immigrato. Pensavo. Ma è casa sua? Perché ora c'è Bitonci qui, migrante? Ma perché? Non ho capito. Ma qual è il problema? Non ho capito. Sto, come dici, amore mio? Era un migrante, amore, un migrante. C'è Bitonci adesso. No, praticamente adesso la situazione non deve esserci. Voglio monitorare la situazione a Padova dei migranti. Cioè, vuoi fare l'assessore di Bitonci? Sì, l'assessore alla sicurezza, così, che sta sul terrazzo e segnala ogni volta che c'è un migrante, così, che guarda dalla finestra i migranti, perché adesso c'è una nuova tendenza a Padova, c'è Bitonci. Beh, certo, Bitonci. Vuole portare un po' più di ordine, evidentemente, se l'hanno letto qualche motivo ci sarà, ordine? No? Vuole riportare un po' più di ordine in una città. Ordine di che cosa? Beh, ma certo. Chi che urla? Cos'è sto rumore di fondo, che siete gente che urla? Cos'è? No, ci vuole no. Bitonci anche lì in Brasile. Sono lo stadio, bisogna mettere ordine lì in Brasile, bisogna mandare i Bitonci lì in quello stadio, mettere un po' di ordine. Ma quanto ci hai messo ad arrivare allo stadio? Ho saputo che c'era un casino tremendo. Pardo. Ci abbiamo messo 2 ore e mezza, ma fra l'altro devo dire che alcuni colleghi che andavano più di fretta di me hanno documentato, fra cui appunto Di Mossi, nei rossi della stampa. Attenzione, Campbell alla fuori, sarà calcio d'angolo, sì, calcio d'angolo per Costa Rica. No, praticamente che questo tappo clamoroso che ci ha fatto perdere non so 40 minuti altro d'ora, che tangenziale di Milano, insomma. No, era dovuto al passaggio di una serie di macchine della FIFA per le quali stava praticamente bloccata la strada per mezz'ora e c'erano tutti questi poveri tifosi a piedi a un certo punto disperati che cercavano di avvicinarsi verso lo stadio, che qui è in mezzo al nulla, l'arena Pernambucano è a 15 km dal centro della città. Calcio d'angolo per il Costa Rica, seguiamolo 40 secondi, 55 in questo primo tempo, sempre 0-0, occhi esaltatori, la battuta profonda, Buffon con un pugno allontana il pallone e allora c'è la possibilità subito per ripartire con Marchisio, che prova sulla nostra tre quarti di campo, ma concede ancora il pallone per il tentativo di Gamboa, poi l'apertura ancora interessante nella zona di Brian Ruiz, siamo al limite dell'area, cross con il mancino, palla in mezzo, colpo di trestalto, brivido, rischiamo Cruciani, sto vedendo, abbiamo rischiato. Salvini, ma perché Marchisio dicono che sia leghista? Marchisio, sia un Marchisio? Non lo so, non ne ho la più pallida idea, però mi ricordo di aver apprezzato tantissimo una sua intervista dove rivendicava con orgoglio la sua torinesità e la sua piemontesità, oltre che la sua italianità, ovviamente. Però hai avuto qualche notizia in più, secondo me? Ma no, non lo conosco, mi piace come giocatore, lo vorrei al Milan, però chi è attaccato alla sua terra, alla sua radice, non come Parenzo, che non ha terra, non ha radice. Che ha rinnegato Padova, Però rinnega anche i padovani, che non hanno l'anello al naso. Evidentemente se hanno cambiato sindaco è perché vogliono una città diversa rispetto a quella di ieri. Però è quella inettitudine della sinistra radical chic che ha portato il nuovo sindaco di Bergamo a dire: io come primo fatto tolgo i cartelli in lingua locale, come se i dialetti, le culture fossero delle robe da trogloditi. Sì. È triste. Campbell, rigore forse rigore, no, nessun rigore. Pardo, che succede? Non rigore, ma secondo me c'era, c'è l'allenatore del Costa Rica arrabbiatissimo, Palotelli dall'altra parte, fra poco ne parliamo, Palotelli non si vede per la conclusione, prova, viene murato però da Gonzalez, alla caccia del pallone ancora, Palotelli che recupera anticipando anche De Rossi, qui l'apertura sul lato di destra, c'era probabilmente calcio di rigore per il Costa Rica per un intervento. Cioè, l'allenatore furibondo. Adesso... Solare. Sì, e vedendolo in diretta sì, poi bisogna vedere se si è un po' tuffato, se si è un po' tuffato. Adesso poi rivedremo tutto, però voglio capire da Salvini se ci sono troppi oriundi in questa nazionale, cioè è una brutta abitudine, c'è Thiago Motta, poi c'è anche Palermo. Non mi piace il giro dei passaporti, non mi piace che se uno aveva lo zio, il trisavolo, non mi piace che uno scelga, no, gioco di qua, no, gioco di là, non mi hanno voluto in questa nazionale, allora vado nell'altra. Non mi piace. C'è Berratti fuori, italianissimo, pescarese, e dentro praticamente un brasiliano, diciamo la verità. Appunto, qualcuno che con l'Italia non c'entra assolutamente un fico, ma vale anche per le altre nazionali. Leggevo di qualcuno che poteva scegliere se giocare con la Francia, con l'Algeria, con Tizio. No, uno. Cioè, ma questi qua, quando dicono siamo italiani e siamo orgogliosi di giocare con l'Italia, secondo te ci credono oppure dicono stupidaggini? Ma sarà anche per questioni economiche, poi fanno bene loro, se gli è permesso farlo, però io sono un nostalgico del calcio con i tre stranieri in campo, vedete, con le maglie dalla 1 alla 11 e la domenica. Oh, gol del Costa Rica, gol del Costa Rica, gol del Costa Rica. No, gol del Costa Rica, sì. Brian Ruiz ha portato il vantaggio in Costa Rica al minuto 44, colpo di testa con la palla che ha sbattuto sulla parte interna della traversa, poi c'è stato un attimo di dubbio perché non si era capito se avesse superato meno la riga, ma poi il guardalinee, che era quello meglio piazzato, ha indicato chiaramente che era gol. Dunque gol di Costa Rica in vantaggio in questo momento, Costa Rica 6, Italia Uruguay 3, Inghilterra 0, dunque se finisse così dovremmo poi giocarci tutta l'ultima partita con l'Uruguay. C'è stata una grande iniziativa del Costa Rica, colpo di testa, palla sulla traversa e poi è rimbalzato dentro. Dentro, netto, netto. C'è anche al mondiale la Goal Line Technology e dunque gol assegnato. Crosi Diaz, testa di Ruiz, 1-0 Costa Rica. Sì, devo dire per Luigi, a parte qualche fiammata, gol nettissimo tra l'altro, Goal Line Technology in questo momento. Ho il titolo pronto. Mi sembra che la palla sia entrata nettamente. Eccolo qui, gol. Pardo conferma, gol dalla sua Goal Technology. Pardo, esatto. Gol, direi vantaggio meritato, no Pierluigi? Vantaggio meritato. Insomma, nel senso che comunque un paio di occasioni abbiamo avuto anche noi, se guardiamo le occasioni siamo lì, però certamente Costa Rica ha giocato meglio di noi fin qui, senza alcun dubbio, senza se e senza ma. Parenzo, che dicevi? A questo punto ho il titolo pronto perché ti farò tutti i titoli durante questa lunga diretta. Dramma Italia, Bitonci si dimette, l'occhiello. Ma che c'entra? Che c'entra Bitonci? Ma sei fissato? Ma sei malato? Cioè sei malato? Italia e l'occhiello è... Scusa, però a questo punto Salvini, potremmo tornare direttamente a un solo straniero? Perché tre stranieri? Facciamone uno come negli anni Ottanta, Salvini, scusa. Ma perché io sono legato a Gullit, Van Basten e Rijkaard, però non mi piacciono questi mercenari che cambiano maglia dal Milan all'Inter, dall'Inter al Milan. Vabbè, questo che c'è. Cioè, 97, cioè hai sbagliato pure i passaggi tra le squadre della stessa città. Sì, io lo vieterei assolutamente. Se giochi nel Milan, giochi nel Milan. Se giochi nell'Inter, giochi nell'Inter. Cioè, i passaggi tra l'Inter e il Milan ti fanno schifo. Se giochi nel Toro, giochi nel Toro, giochi nella Juve, giochi nella Juve. Se no, che derby è? No, non esiste. Vabbè, ho capito, però ormai è stato tutto sdoganato, anche queste cose. Si può tornare indietro. Io vorrei che giocassero tutti la domenica pomeriggio alle 11. Per Sky è un problema, e chi se ne frega? Ma è Salvini contro Sky, una cosa pazzesca. Tutto la domenica alle 14. Sai, Sallusti cosa direbbe in questo momento? Che direbbe? Dimmi. Segna il Costa Rica, è colpa di Alfano. Evidente, è chiaro, colpa di Alfano. Colpa di Alfano, che c'è? È chiaro, perché abbiamo le prove, è stato Alfano. Hanno messo le scarpe dei nostri ragazzi, messo gli interni e si deve dimettere. Questo è il titolo. Allora, che facciamo? Punizione di Pirlo, poi chiudiamo il primo tempo e chiudiamo anche con Salvini. Punizione di Pirlo, seguiamola con la punizione di Pirlo. Punizione di Pirlao, che non ha origini rom, come dice Parenzo, perché l'ha smentito in una sua biografia. Vai, vai, niente, punizione bassa, via. Finirà il primo tempo adesso, anzi è finito in questo momento. Pardo, commento finale al primo tempo? Si scalda Cassano dell'Italia, brutta Italia, cambi in arrivo, secondo me allenatore Costa Rica ancora furibondo per il rigore non concesso sul campo, 1-0, stiamo giocando male e adesso un quarto d'ora di politica, un quarto d'ora di politica, ci sentiamo per il secondo tempo. Ciao, poi. Ciao Matteo, ciao Salvini, ciao, a presto, ciao. Ciao ragazzi. Ciao. Well now, little mosquito, there must be. Oh, ragazzi, riprendiamo le cose serie, le cose normali, non che l'Italia non sia una cosa seria. Grande scontro, Parenzo, grandissimo scontro tra Vladimir Luxuria e Mario Adinolfi. Vladimir Luxuria, che in questo momento è uno degli organizzatori del Gay Village di Roma, e Mario Adinolfi, ex parlamentare del Partito Democratico, che molti dicono essere omofobo, cioè uno in realtà che non vuole i matrimoni gay, non vuole i matrimoni tra gli omosessuali. Luxuria dice: Adinolfi è un omofobo di sinistra. Si è trovato il mestiere pure lui, dai, ormai è dell'omofobo, dai, ormai è un po' un mestiere. Sì, ma sì, vende un po' libri. Puoi fare l'omofobo da sinistra, capito? Anche un po' più, capito? Radical. Ha dato giustamente voce a una realtà che esiste, perché esiste, è inutile ce lo nascondiamo, di quella parte di omofobi che stanno pure a sinistra e hanno pure loro la loro rappresentanza. So, I'm nature's mosquito. La risposta di Adinolfi. A me non sta antipatico Luxuria, quindi tutto sommato una che ha fatto il mestiere tutta la vita, lo capisco che pensa che gli altri fanno il mestiere. Non faccio il mestiere, faccio quello che ho sempre fatto, cioè platero su delle idee che fanno sono molto molto faticose e scomode. Cosa meravigliosa, caro Parenzo, sono, allora, se uno chiama Emilio Fede, se uno ha il telefono di Emilio Fede, no? Ha il telefono di Emilio Fede, lo chiami, perché la gente è matta, chiama Emilio Fede all'una di notte, alle due di notte. Come? Mi senti bene ora? No, sento sempre male, tanto è inutile mandarti a fare in culo, t'ho già mandato mille volte a fare in culo, non c'è problema. Allora, se uno chiama Emilio Fede, la risposta di Emilio Fede quando sente, quando vede la telefonata è questa. Dimmi amore. Professore. Direttore. Pronto? Dica, pronto. Chi è? Chi è? È il direttore Fede? È il direttore Fede. È il direttore? È il direttore. È il direttore Fede o no? È il direttore Fede, sì. Che fa? Mi faccio una sega. Tu? Ma come? Un consiglio, eh? Dammi un consiglio. Fatela anche tu. Ma come, direttore? Così non rompi i coglioni. Mio amore. Direttore? Fatto? Direttore? Sì. Come stai? Direttore. Come stai? Bene, bene. Non lavori? Come? Non lavori? Lavoro, sì. Sono qui ai centri sociali. Come ai centri sociali? Spazzo, il palazzo Montecitorio. È il tuo capo? Condannato. Il mio capo guida il paese. Poi no, non guida più paese, condannato. Sì, guida, condannato, guida condannato, condannato. E voi stronzi potete fare niente, soltanto andare per strada a fare puttana con mamma. Ma che vuol dire? Vaffanculo, dai, su, se ti diverte va bene, ti vuoi fare insultare, sono pronto a fare qualunque tipo di insulto, ti vada, salve. Vabbè, Angela da Padova, dai, Angela, buonasera. Buonasera, Angela. Dica. Da Padova. Vai. Volevo intervenire sul discorso che Renzo prende in giro il sindaco Bitonci. Allora, Bitonci, per chi ha avuto modo di conoscerlo in queste settimane cui ha fatto la campagna elettorale, è una persona squisita non solo umanamente, ma una persona che sa stare tra la gente, nonostante sia stato... Vabbè, Angela, però lei ha fatto la campagna contrariamente, elettorale. Contrariamente, io ho fatto la campagna elettorale. Ho capito, lei è normale che dica questo. Per una lista civica, vabbè, piccola. Ma che cosa vuole dire, scusa? Ma no, io voglio dire che è inutile che Parenzo prenda in giro e dica gli stranieri rubano le biciclette, perché anche queste piccole cose, ok, sono cose vere, non da prendere in giro, ok? Perché ad esempio mio cognato in 4 mesi gli ha rubato dalla stazione 6 biciclette, non stiamo dicendo adesso, se ma chi le ha rubate queste 6 biciclette? Magari erano magari erano italiani. Guardi, Parenzo sa benissimo, ok, se si va nei giardini dell'Arena, se si va in Piazzale Boschetti, eccetera, eccetera, si trova gente straniera. Mi dispiace dirlo, perché guardi che io sono la prima ad essere amica di albanesi, di sudamericani, di gente del Congo, ok? Però purtroppo le persone per bene e integrate a Padova e in tutta Italia sono le prime che non vogliono determinati stranieri. Se posso dire una cosa, scurnacchiato, perché sei uno scurnacchiato di prima categoria. Novità da Radio Padania, caro Parenzo, eccole qui, sigla! Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera, guarda avanti. Ma niente, bella sta canzone fuori, servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti, clandestini. Padania, Bitonci bello e libero, guarda Padova. Guarda oltre i monti, guarda oltre il fiume, non permette, non esiste più neanche un campo rom. E l'uomo di colore è stato allontanato a calci nel sedere. Sali Padania, sali Bitonci, diventa sindaco di Padova. Non più neanche un mendicante ci sarà nella città del santo. Solo gente bianca dal fino al midollo. Servi di Roma fuori, tutti coi capelli neri, senza dubbi e il fazzoletto della Padania. Padova bella e libera, con Bitonci. Allora, Barin, Radio Padania. Mi segnalano che ieri sera su Radio 24 ci hanno sputtanato ancora una volta, dando il numero della radio a tutti gli extracomunitari per chiamarci. Oh, ma mi fa piacere, perché in effetti non ci chiama mai nessun giargianese. La cosa, insomma, ci dispiace, perché dice, ma scusa, ma Radio Padania non chiama neanche un immigrato irregolare, è un ciabattante ciondolante da un bar all'altro. Radio 24 sta dando il numero vostro in diretta in tutte le lingue, mi segnalano, e vorrebbero farci chiudere, ma noi resistiamo. Eh sì, è solo per metterglielo in quel posto, resistiamo e come. Tutto per la lingua. Ricordiamo la nostra grande iniziativa, Parenzo, ricordiamo. Tutt'altro, cari amici, non vi vogliamo far chiudere, ma far diventare la prima radio multietnica italiana. Amici egiziani, amici del Marocco, amici algerini, meglio se clandestini, chiamate immediatamente, tutto il giorno, tutte le ore, Radio Padania Libera, e liberiamo quella radio dal razzismo, riprendiamocela noi, quella radio è nostra! Padania bella e libera, guarda avanti. Guarda quello che stanno facendo su Radio 24. Ieri sera hanno dato il nostro numero di telefono facendo l'appello a tutti gli immigrati di telefonare qua. Caso particolare, questa mattina non ha ancora chiamato neanche un ciabattante. Sono un po' preoccupato, nel senso che mi sa di quiete prima della tempesta. Vuol dire che ci fanno davvero saltare in aria, come Parenzo effettivamente ha chiesto ad Al-Qaeda. Pronto? Ma poi che vuol dire ciabattante? Un ciabattante? Sì, perché è sinonimo di uno che lo fa un cazzo. 0266203529, ripeto, 0266203529. Nelle prossime puntate il numero di telefono verrà dato anche in arabo, cari amici. Chiamate, chiamate Radio Padania Libera, la prima radio multietnica italiana. Il Nabucco salirà alto nel cielo e ti cullerà. Buongiorno, sono Angelo da Varese. Poi Angelo, e no, allora? In ogni modo, io, Andrella, io rompergli il corno a parecchio. Ma perché, poverino, così un bravo ragazzo? Ma quello lì è un pirla, non è un ragazzo. Cazzo, io sono un bravo ragazzo, ma sentendo quelle parole lì, mi viene voglia di andare là a rompergli le corna. Mi viene voglia di andare là a rompergli le corna, e rompergli le corna. Ti vogliono rompere le corna, che, ti vogliono rompere le corna. Qualche bicchiere di vino in meno in quella radio, forse si è più sobri, perché ho sentito che lì, perché si vede che è una radio che si sente molto in montagna, ad alta quota, no? Quando si beve una bella grappa e poi telefonano dalla mattina alla sera, lì, allora, ho visto un rom che camminava per strada, e poi ho visto un negro che correva, guarda che andava al lavoro, no, correva, rubava, ma no, guarda che andava al lavoro tranquillamente, era in ritardo, era tra le 8 e 5 e stava correndo, ma no, ha rubato di sicuro, l'ho fermato e invece stava andando al lavoro. E vabbè, però tanto c'è Bitonci ora. 63esimo 1-0 Costa Rica, Giuseppe, provincia di Chieti. Buonasera, perché non ha un cazzo da fare lei? Perché non guarda la partita? Oh, Cruciani, buonasera. Oh, perché non guarda la partita, caro amico? Sto a lavorare. Vabbè, prendi un televisore e mettiti un televisore in ufficio. Ma io lo sento la radio, la partita, capito? Vabbè, allora Giuseppe, che vuoi? Oh, caro Cruciani, come va? Io ho incontrato Razzi a Basto. Sì, gli ho dato il mio bigliettino. Sì, sì, a Basto è venuto, sì. Sì. E gli ho detto così, quando vede il raccomandato Cruciani, glielo dia, sì, che così mi chiama. Che bigliettino è? Ma perché ti dovrei chiamare se chiami tu? C'è l'email, il numero, capito? Ma se chiami tu direttamente, perché io dovrei chiamarti? Scusa, mi spiega. Cruciani, comunque, lei in Italia è l'unico ad essere super pagato, sì, per dire tonnellate di parolacce. Ma questo dovrebbe essere una cosa positiva, però, eh? È lui. Vabbè, questo per me è positivo, come dire. Sì, sì, è lui. Ma è l'unico, veramente, cioè. Ma mo io mi chiedo, sì, ma lei è super intelligente o super raccomandato? Vabbè, ma questo Giuseppe, lasciamolo ai posteri, come dire, il giudizio lasciamolo ai posteri. Poi le hanno messo pure un pappagallo rosso, comunista bolscevico di merda, sì, che va a resort a 500 euro al giorno con i soldi della Confindustria, che sono monti alla vacca. Senta, Stato, che pago pure io. No, lei non paga niente, guardi, lei non paga niente. Mi può spiegare, amico mio, come, perché è interessante, come si vive con una scoreggia nel cervello? Cioè, con tutta quell'aria nel cervello, come si fa a vivere? Perché questo è un esperimento interessante. Caro nullità. Caro petto. Caro allora, petto. Allora. C'è un biglietto per la Siberia, ad un resort a spaccare le pietre. Non esiste più. Lasci sua moglie da sola a casa, così qualche clandestino se lo va a trombare. No, vabbè, Giuseppe, adesso ecco, su. Ecco, ma adesso, ecco la cazzata, dai, su. No, cioè, ma non la cazzata, perché questo signore qua che non ha fatto nemmeno il militare, al contrario di me che l'ha fatto il militare agli alpini, e io sono un italiano, lui non è italiano. Se ne andasse dall'Italia, che è meglio. Ma chi deve andare via dall'Italia? Chi deve andare via dall'Italia? Il bolscevico comunista di merda che le hanno messo come aiutante. Vabbè, ma questo stasera è scatenato. Cioè, questo qua, Giuseppe, non guarda l'Italia, non capisco perché non guarda. Chiama la Zanzara per dire a Parenzo che è un bolscevico comunista di merda. Perché no, negli ospedali italiani, lo diceva anche la Lorenzin qualche giorno fa, non in tutti gli ospedali italiani, specie nei reparti dove ci si occupa di psichiatria e malattie molto gravi, sì, come il caso, sì, del signore, per non alterare la psiche di questi signori che sono già agitati, gli hanno dato i calmanti, la partita è un eccitante per loro, quindi gli mettono delle figure tipo il mare, hanno questi televisori in cui gli mettono, sì, il mare davanti con le onde, con lo scroscio delle onde, no, per provare a farli rilassare, e si vede che questo è scappato dal letto, ha preso il solito telefonino rubato all'infermiere, sì, e ha chiamato l'800 2400, povero malato. Lei comincia ad alzarsi la mattina alle 5. Ma che c'entra la mattina alle 5? Non è che alzarsi, cioè, la mattina. Perché questo signore qua, prima se ne va in Siberia, gli pago io il biglietto, ma che restasse là a spaccare un resort, a spaccare le pietre, altro che resort a 500 euro con i soldi. Ma la sua famiglia come ha affrontato questa sua malattia mentale? Questo problema, come l'ha affrontato? Di merda, peggio che come l'ha affrontato, che ci abbiamo al presidente della della Camera lì. Che abbiamo? Che abbiamo come presidente della Camera, scusi? No, Giuseppe. No, Giuseppe, lei è veramente disgustoso quando dice queste cose. Perché va bene le critiche, va bene le critiche, quello che vogliamo, noi spesso critichiamo. Quello che pensano tutti gli italiani. Ma che. Ma non è vero, non è così. Verissimo, perché non si può fare il terzo mondisco con i soldi degli altri. Io non voglio pagare per i clandestini che arrivano in Italia. Io ho mia figlia a Milano e fra poco lo faccio tornare in Abruzzo, perché a Milano mi sembra l'Africa. Ma quale Africa? Io abito a Milano, non sembra affatto l'Africa. Lei. Sì, ma la faccia tornare in Abruzzo, ma chi se ne frega? Guardi che sua figlia è nata a Milano perché si stava vergognando. No, ma non è nata a Milano, ha studiato a Milano. Ma lei voleva scappare via dal padre, questa è la realtà. No. Si vergogna sbaglia. Del padre, si vergogna di lei, si vergogna di lei. Non si vergogna di me, non si vergogna, stia tranquillo. È di uno che telefona così alla radio. Oh, Crucià, ma lei è super esperto in, cioè l'hanno assunto da gran raccomandato e non ancora dice chi l'ha raccomandato, no? No, nessuno mi raccomanda, Giuseppe, nessuno, non si preoccupi. Ma come l'hanno fatta da su? Lei è esperto in prostituzione, in canne, poi... In prostituzione, in canne. Ride da solo, ha detto che Milano non vuole far tornare che sembra l'Africa. Dai Giuseppe, ti conoscono pure a pescare. Ma non ti vergogni, ma non ti vergogni a chiamare così e a dire queste cose, non ti vergogni, no? Non ti vergogni a chiamare a dire queste cose, no? Ogni tanto, dai. Vabbè, va. Ti è raccomandato. Ti saluto, va, che sei veramente, sennò tua figlia si vergogna ancora di più di te, Sì, ciao. Perché ciao. È andata a Milano perché si vergogna, altro che Abruzzo, non torna più in Abruzzo, vergogna. Si vergogna come una ladra, come una ladra. Sì. Le fanno male. Chiamano Fede, lui risponde così. Pronto. Direttore sì. Fede? Dica. Ma parlo proprio col direttore, dico. No, guardi, no. Direttore Emilio Fede. No, si sta sbagliando, ma comunque. No, ma è la sua voce, direttore, è lei, direttore. No, lei è. Ma scusi. Direttore! Alla mamma che fa i pompini? Direttore, ma che belle parole! È il figlio di quella troia che batte i marciapiedi in piazza Euclide? Beh, non è Piazza Euclide però, eh? Non è Piazza Euclide. No. Senta, però, direttore, nessuno, ma è proprio lei! Fa un culo tu, pezzo di merda. Grazie, direttore. Le zanzare, fanno male, ma lo fanno, Avete finito? Fede? Hai finito? Fede? Hai finito? No, Fede? Senti, vai a dare del culo, tu e i comunisti di merda come te, capito? Hai capito sì o no? Ma è Fede? Siamo al top qui, qui siamo al top. Non capisco, cioè poverino, perché si vede che lui riceve molte molestie sul cellulare. Esatto, però. Sì, quando risponde. No, ma spieghiamo, vabbè, ma è tremendo, scusami, se capitasse a te che ti chiamano nella notte, sì, è una roba drammatica. Sì, ho capito, però a un certo punto uno cambia numero, reagisce, cioè in qualche modo. Non è che puoi insultare la gente così, dai, su. No, ma scusa, se ti chiamano, ma se lo fanno a me, ma io rimando anch'io a quel paese, ma scusa. Ho capito, dai. Il tuo numero, ma come dai? Ma vediamo, diffondiamo il tuo numero. Vabbè, comunque c'era bisogno di una risata per Emilio Fede, perché qui siamo veramente nel dramma più assoluto. Al 77esimo ci colleghiamo con Recife, sempre 1-0 per la Costa Rica. Ma c'è, caro Pardo, una, come dire, la Costa Rica, il Costa Rica. Vabbè, quello che è Costa Rica mi sembra c'è grande impotenza, sembra, no? Impotenza. Abbiamo 4 attaccanti adesso in campo, ma impotenza è la parola giusta, perché guarda, abbiamo cambiato 4 moduli dall'inizio del secondo tempo, adesso abbiamo il più offensivo di tutti, che è il 4-2-3-1 con Pirlo e De Rossi in mezzo al campo, con Cerci, Insigne esterni e con Cazzano dietro a Balotelli, quindi in pratica abbiamo 3 attaccanti e mezzo in campo, ma non abbiamo mai tirato in porta nella ripresa, quindi non è che ci sia sempre la proporzionalità diretta fra numero di attaccanti e palle gol, sì. Però insomma qualcosa di più, anche a costo di concedere dei rischi dietro, ma qualcosa in più dovevamo riuscire a costruirla. Invece la squadra è assolutamente slegata e in grande difficoltà. Ti dico, l'unica consolazione, si fa per dire, è che se dovesse rimanere questo il risultato, ci basta il pareggio per passare. Ci basta il pareggio con l'Uruguay, ma è una consolazione veramente amara. Ma vogliamo provare a spingere con Darmian? Dai, vai. Palla verso Cassano, tre quarti di campo, uno contro uno, il tocco verso Nerossi, riprende ancora il pallone, siamo sempre sulla tre quarti di campo avversaria, palla ancora per Cassano, il tocco sempre verso Nerossi, si è aperto Abate, largo sulla destra e può ricevere il pallone, buono lo stop, possibilità per uno contro uno, occhio al caso da parte di Abate che viene subito ribattuto, ma il pallone c'è ancora Abate, c'è il raddoppio di marcatura su Abate che può provare il cross, flipper pazzesco alla fine, rimesso dal fondo per Costa Rica. Sì, oltre alla sensazione di impotenza generale, caro Pardo, c'è anche un'altra cosa da dire, che è un segnale di assoluta confusione tecnico-tattica, diciamo la verità. Adesso siamo ancora al 79esimo, però Prandelli non ha dato segnali come dire di sicurezza, già ha cambiato qualche pedina spostando Darmian a sinistra rispetto alla bella partita che aveva fatto a destra. Nel complesso ha dato segnali di grande insicurezza, di confusione, o sbaglio? Sì, no, la partita per ora dell'Italia è da 4, nel senso che proprio non ci sono giustificazioni. Abbiamo giocato male il primo tempo e malissimo la ripresa, secondo me anche peggio se possibile, perché comunque, ripeto, qualche palla gol da una squadra che è sotto te l'aspetti quasi in automatico, è quasi fisiologico, e fin qui non c'è stata. Facciamo tantissima fatica, siamo in ritardo su tutti i duelli in mezzo al campo, adesso c'è una sostituzione. Cioè, la cosa incredibile è che il Costa Rica mi sembra non abbia sofferto nemmeno troppo, cioè stia conducendo una partita, un'onesta partita di contenimento, ineccepibile dal punto di vista, come dire, tattico e di posizionamento in campo e tutto, ma stia portando a casa 1-0 senza nemmeno faticare eccessivamente. Sono d'accordo. Adesso esce Brian Ruiz, che è stato grande protagonista, ha segnato in questo match col colpo di testa che sta decidendo, esatto, la partita. Insomma, hai ragione, la sensazione è proprio impotenza e insomma la superiorità tecnica teorica che dovrebbe esserci a nostro favore non c'è praticamente mai vista, e dal punto di vista dell'organizzazione tattica e della brillantezza sono stati meglio di noi. Questa è un po' la sintesi della partita. Va bene, Pierluigi, ci sentiamo per gli ultimi minuti, ciao. Vabbè, prima di passare agli ascoltatori, Parenzi, in una puntata un po' particolare, in cui tutta l'Italia, diciamo la verità, tranne rare eccezioni di persone che ci chiamano e che ringrazieremo per sempre, tutta l'Italia è concentrata sulla partita, come è giusto che sia in queste occasioni, e voglio farti ascoltare lo scontro magnifico. Ma poi lo chiamano terzo mondo in Costa Rica, capito? Ci sta facendo un paiolo così e lo chiamano terzo mondo. Non è Costa Rica, ma nessuno dice, dai, che Costa Rica è terzo mondo. Ma la cosa che volevo capire da Bart, ma glielo chiederò, molto bello, nel prossimo collegamento, sì, credo che anche questo interessi da di ascoltatore medio di questa zanzara, e qual è il piatto tipico brasiliano? Cioè, non lo abbiamo ancora detto, cioè noi stiamo qui a vedere, a dire allora Buffon, ma che ce ne frega in questo momento, aspetta un attimo, niente, ma il piatto tipico insigne. Ma che ne so, ma che me ne frega, a me il piatto tipico del Brasile, Sloan contro Gasparri. Sai che Gasparri durante la partita con l'Inghilterra ha goduto per la sconfitta dell'Inghilterra dicendo che gli inglesi sono boriosi e coglioni, no? Con un tweet ha fatto incazzare tutti. E la settimana scorsa c'era il nostro John Peter Sloan in diretta con Gasparri, solo che Gasparri non si è reso conto. Sentite. Allora, ci ha chiamato John. Ciao John. Hi, sono John Peter Sloan. Oh, John Peter Sloan, grandissimo, come stai? Very well, and you? Bene, not too bad. Parenzo, no, ma no, non è Parenzo, è John Peter Sloan, che è un... Sì, vabbè, John Peter. Ma è John Peter Sloan, Gasparri, è John Peter Sloan, ti assicuro, lo conosci John Peter Sloan? No, non lo conosco, sono... Di un po' chi sei, John. Allora, no, ma lui ovviamente non mi conosce, io faccio una cosa accademica e culturale, cioè l'ignorante è difficile. C'è un italiano importante che ha detto le cose contro l'inglese, poi ho visto che era Gasperi e ha detto: amore, non è importante lui. Comunque, cioè, ti hanno detto di nuovo un politico tra virgolette grandi, che è bellissimo, perché 25 anni in Italia non ho mai sentito una frase così contro l'inglese. È un altro esempio che veramente i pagliacci così, cioè insomma veramente sono sempre, quando ho sentito politico basta, al fine, cioè fa ridere, ma quanto non rappresentano gli italiani. Sei he's a fucking idiot. He's a fucking fucking veramente, cioè, a me dispiace fucking idiot, fucking idiot. Cioè, fucking idiot. Se lui vuole fare, lui vuole fare figure di mezzo, lo fa per sé, non lo fa per gli altri italiani, perché è quello il peccato, no? Perché gli italiani non sono come lui. Ma non lo so, un vostro imitatore, cosa devo rispondere, insomma. Ma quindi non è un imitatore, John Peter Sloan è uno che non ha fatto. Non è un imitatore. Bellissimo. È un amico, com'era quello scherzo che avete fatto? Oh ragazzi, segnali di grande impotenza qui, segnali di grande impotenza, ma vediamo se porta fortuna, va, vediamo se porta fortuna l'Italia dopo avere trattato male gli inglesi. Collegamento con casa Gasparri, se non sbaglio. Buonasera, sì, Maurizio Gasparri. No, non credo di avere queste capacità. Dai, dacci una mano, dai, su. Guarda, io più che io, si è esposto un giornalista del Foglio, Claudio Cerasa, che partecipa a queste rischiosissime previsioni dei risultati. Sì. Aveva previsto una vittoria 3-1 per l'Italia, qui mi pare che insomma oramai io sto sentendo il commentatore che punta alla sconfitta 1-0, perché giocando con l'Uruguay noi potremmo passare il turno pareggiando, solo che purtroppo oggi, rispetto al gioco bello, brioso con l'Inghilterra, la squadra è stata deludente, quindi chiaro. Facciamo un tweet radiofonico, ma stavolta contro Prandelli, ma come mai? Ha stravolto la squadra, non si capisce niente. Ma no, ma poi no, io depressavo, questo è il tweet che fa. Come ha depressavo? Non so se esiste in brasiliano, però credo che si capisca, depressavo. Speriamo adesso, qui si stanno agitando, perché poi. Ma che si stanno agitando? Che esatto, sa mai, perché vuole portare Iella, scusi. No, non voglio portare Iella. Con Gasparri. Qual è la scommessa? Allora io faccio questo, bisogna dire questo, allora poi ne faccio una io. Se Gasparri, se vince l'Italia, cosa? Se vince l'Italia dove? Quando? Se vince il mondiale. Ma che mondiale? Il mondiale, quello lo potremmo sempre vincere. Se vince il mondiale, abbracci un immigrato clandestino e gli dici ti voglio bene, lo abbracci. Ma quello l'abbraccerebbe comunque. Ma quello l'abbraccia comunque. Sì, ma quello lo farei comunque, io mica voglio male alle persone, scusi. Abbraccerei perfino Parenzo. No, se l'Italia vince il mondiale, esco da Forza Italia e vado con Fini. No, questo no, ma questa è una condizione impossibile. Ma che sta pensando? Ma come? Anche Fini perché sta facendo un grande movimento politico e torna, ha visto che video che ha fatto? Ho visto il video, però non si vede il rigore come finisce. Io ho visto il video completo e il rigore è sbagliato, la palla va fuori come nel mondiale del 94, quello di Baggio e di Baresi. Lei si faccia dare il filmato completo, sbagliano anche il rigore. Vabbè, comunque, ma come mai è tornato Fini, è tornato a parlare così baldanzoso, eccetera? Non aveva detto che non c'è niente da fare, quindi la giornata è dura da passare e allora la nostalgia, la magia. Eccolo là! No, fuori gioco. Mi distrae con Fini. E quindi Fini, non avendo da impiegare la giornata, ovviamente prudentemente, però dice farò l'allenatore e non mi candido, già l'ha detto oggi, perché di fronte alle prime reazioni di contestazione per questo ritorno, ha già chiarito che lui avrebbe. Allora, se uno presenta un movimento politico e poi dice non si candida, ma che va a fare in televisione? Ma scusi, non ho capito, ma c'è, perché le ripeto, l'astinenza è come un fumatore, gli levano le sigarette e che fa? Fumerebbe pure. Però quello lo capisce anche lei, se a Gaspari togliessero la politica, Gaspari morirebbe, diciamo, morirebbe no, però sarebbe duro. Non so, chi lo sa, quando succederà, prima o poi vedremo. Cioè lei sta dicendo che Fini sta, è dura passare le giornate, è dura far trascorrere le giornate. Che c'è da fare? Non è che lui. Beh, c'ha la moglie, c'è una bella moglie, no? Ho capito. Compagna. Può andare a fare le immersioni, quelle già le ha fatte tutte, secondo me, già visto tutti i fondali. Poi se è tornato, evidentemente sentiva un vuoto. Intanto diciamo la verità. L'allenatore ride, guardi, ha visto l'allenatore del Costa Rica, sì. Ma come si chiama? Noi ci facciamo adesso, guardi qua queste tifose. Una è Grassottella, l'altra, insomma. L'altra, vabbè, comunque, insomma. Guardi qua questo Lothar, chi è questo qua? Questo qua del Costa Rica. Okay, questo ci fa paura, però, questo ci mena. Però io dico una cosa, Gasparri, che certo farsi battere dal Costa Rica è un'umiliazione. In un'epoca normale del calcio classico, cioè Italia-Costa Rica doveva finire 6-0. Il mondo è cambiato, il Costa Rica ha giocato bene, ha battuto anche l'Uruguay, che a sua volta ha battuto l'Inghilterra, e quindi il Costa Rica. Costa Rica che è qualificato, peraltro, attenzione, perché siccome c'è. Certo, e vince il girone, su questo si potrebbe, a meno che l'Uruguay non ci batta. No, anche ugualmente è la stessa cosa, perché l'Uruguay potrebbe perdere. Perdere con l'Inghilterra. Però è qualificato, per essere qualificato è qualificato sicuramente, no, se vince sicuramente, perché c'è Italia e Uruguay, perché ci c'è giochiamo Italia. Ci giochiamo il posto noi all'Uruguay, quindi in una specie già di sedicesimo di finale. Però diciamo, anche la verità, diciamo la verità, i toni trionfalistici dopo la partita con l'Inghilterra erano esagerati. Siamo stati tutti quanti però piacevolmente sorpresi dalla partita, siccome ce l'ho registrata, ma la voglio riguardare stasera così mi consolo. È stata una bella partita, diciamoci la verità. Quindi perché il trionfalismo sul campo? Poi forse l'Inghilterra non è un granché quest'anno. Oh, il godimento di Gaspare, oggi c'è una certezza, l'eliminazione dell'Inghilterra. Questa, guardi, voglio dire, non mi faccia insistere e infierire. Come si chiama quello? Perché non telefono. John Peter Sloan. Ecco, vorrei parlare stasera con John Peter Sloan, quello che l'ha definita il fucking idiot. Sì, cioè, sì, un fottuto idiota. Comunque ho visto che addirittura un profilo Twitter, quindi ci potrebbe essere anche la possibilità che esista davvero, insomma. No, ma esiste, lei insieme. Ma ha scritto libri su libri. Lei ha idea quanta gente scrive libri, Parenzo, vada in libreria. Accanto a Kerouac, accanto a Pirandello, accanto a Moravia, accanto a tutti, a Elsa Morante, troverà un sacco di gente. Vabbè, ma comunque lei un po' gode per l'Inghilterra eliminata stasera, perché praticamente è eliminata. Sì, speriamo che vada avanti l'Italia, che poi alla fine. Sì, però l'Inghilterra, voglio dire, era stato fatto tutto quello sconquasso di fronte a quella mia battuta notturna. Ma la vittoria dell'Italia ai mondiali aiuta Renzi, però, questo indubbiamente. Beh, quello sì. Guardi, non è così. Ma no, guardi, perché quando... Nel 2006 no, effettivamente non aiutò Prodi, perché dopo due anni... Nel 2006 ha vinto il mondiale perché aveva il governo. Il calcio è una variabile indipendente, insomma, diciamo, quindi da questo punto di vista... Beh, le vittorie del Milan storicamente hanno aiutato Berlusconi. Sì, perché ma Berlusconi ha una teoria su questo. Cioè? Berlusconi ci diceva anni fa che le vittorie del Milan, come dire, entusiasmano i tifosi e portano voti, ma è normale perché lui è stato visto sempre come il leader della rinascita del Milan, che presenta Serie B e portò alle vittorie a raffica della Champions League. 90esimo, 4 minuti di recupero. Io dico una cosa, però diciamo la verità. Allora, se l'Italia non me l'aspettavo. Mi dica lei se l'aspettava. No, non me l'aspettavo. Se l'Italia va fuori perdendo col Costa Rica, andasse fuori sarebbe quasi da pomodori all'aeroporto, come si diceva una volta. No? Ma guardi, non è più così, perché noi siamo andati fuori in Spagna, in Sudafrica. Eravamo campioni del mondo e non c'era nessuno. Non mi pare, che non ricordo episodi. La Corea, io ero bambino, piccolino, cioè avevo 10 anni, mi ricordo una roba. Io mi ricordo che c'avevo una foto di Edmondo Fabri, che era l'allenatore dell'Italia. Sì. C'avevo 10 anni, l'ho scritto le parolacce sopra, incollato. Addirittura hai scritto tu le parolacce sopra. Ma c'era un odio sociale quando l'Italia fu eliminata dalla Corea. Pak Do-hik, ancora me lo ricordo. Dentista coreano. Ma lei guarda, mica era sono nato nel 66, però comunque io invece sono nato nel 56, quindi me lo ricordo, avevo 10 anni. E Edmondo Fabri proprio veniva vituperato. Io non mi ricordo quando siamo stati eliminati in Sudafrica. No, è vero, non è più il tempo di pomodori, di gente che aspetta l'aeroporto. Anche perché noi abbiamo vinto il mondiale 82, il mondiale del 2006, quindi la mia generazione ha visto due volte il mondiale. Certo che Cassano oggi per esempio inguardabile, è entrato inguardabile. Oggi la squadra è stata tutta quanta brutta, diciamoci la verità, come ha giocato bene con l'Inghilterra oggi è tutta più o meno brutta. Tra l'altro io ho un mio convincimento che uno che dovrebbe essere usato in questa fase è Immobile, vede, i mondiali spesso hanno visto l'esplosione di giocatori imprevisti. Il Rossi dell'82, che veniva dalla squalifica, dal calcio scommesse, addirittura c'era chi si era indignato perché stesse in squadra. Guarda, se pigliamo 2-0, quasi 2-0, quasi 2-0. Se il Costa Rica faceva il 2-0 eravamo costretti a battere l'Uruguay per qualificarci. Invece così giochiamo per il pareggio con l'Uruguay. E magari perderemo. Guardi, ma l'Uruguay è una bestiaccia, perché nel calcio ci sono alcune regole che stasera per la verità non sono state rispettate. Squadre titolate, l'Uruguay ha vinto 2 titoli mondiali. L'Inghilterra in tempi andati, però resta una potenza del calcio, devo dire. Conta meno degli Stati Uniti, però è ancora una grande potenza. E invece l'Inghilterra ha vinto un solo titolo mondiale, quello 66, rubacchiando in finale, diciamo. Con un gol che non era regolare. Allora, Pardo, l'ultimo minuto da Recife, Pierluigi non c'è più, chiamatelo, dai. Chiamatelo, Pardo, almeno non ce l'aspettavamo. stavamo. Io pensavo, che mi portasse. Scusami, ma Gasparri sta guardando pensavo che sulla Rai o su Sky? Ecco, io sto guardando su Sky. Su Sky, ecco la confessione. Perché è meglio, dai. È meglio, dai. No, c'è l'altra definizione. Quindi ma non è per quello, perché no, è meglio. Per quello, no, se uno può scegliere, è meglio, dai. No, per la questione che c'è l'altra definizione. Ho una televisione con l'altra definizione in questo momento che sto guardando. E l'immagine è migliore. Cioè, se uno può scegliere, però, diciamo la verità, se uno può scegliere, mette Sky. Ma perché poi c'è, come dire, spesso il mosaico, ci sono varie cose. Sky è brava, Sky è ottima in questo, insomma. La Rai si difende, ma Sky sicuramente... 40 secondi, Pardo! Ma allora aspettavate, ragazzi. Non c'è. Guardi, come si chiama questo allenatore del Costa Rica? Non lo so, come ti aspetta. Nessuno lo sa, eppure questo ci potrà irridere. No, e come no? Ma non solo irridere. Ma lo deve. Cioè, Costa Rica, aspetta un attimo. Perché poi c'ho mannaggia, però niente, oggi è stata proprio deludente, eccolo qua, è finita, ragazzi. È finita, mamma finita, mia. Mamma mia. Cioè, Costa Rica qualificato, Costa Rica qualificato quasi certamente primo, quasi certamente primo. Beh, sì, direi primo, sì, perché tanto l'Inghilterra. Beh, no, dipende se l'Inghilterra batte Costa Rica, in teoria potrebbe arrivare secondo, altrimenti no, Costa Rica diciamo primo. Noi, se battiamo noi l'Uruguay, che potremmo fare una differenza. E noi battiamo l'Uruguay, sì, certo, noi battiamo l'Uruguay. Non ci buttiamo giù ancora, ragazzi. Noi potremmo vabbè, ragazzi, è una tristezza infinita, dai. Se Costa Rica perde con l'Inghilterra, un riscatto della regina Inghilterra, una reazione anti Gasparri dell'Inghilterra, che esatto. Ha preso gli inglesi, Twitter, gli inglesi l'Inghilterra, che... diceva questo Gasparri cosa voleva da noi, altro che quello che diceva lui. Che vabbè. Dobbiamo far prendere poi anche una persona seria, mi spiace di questa serata. Vabbè, insomma. Abbracci, a presto, ciao. Abbracci ciao, e pianti, ciao. Abbracci e pianti. Vai. Radio Padania, che succede? Ciao Brandelli. Saccoccia. Salutiamo l'amico Cesare Prandelli, salutiamo tutti gli ascoltatori. Cos'era? Possiamo anche insomma salutare, direi, no? No, beh, adesso dobbiamo fare quelle chiacchiere oziose da dopo partita. Un paio d'ore. Facciamo finta di fare un'intervista a caldo a qualcuno, tipo io posso fare il giocatore. Facciamo un'intervista a Vincent De Maio. Allora, facciamo, dai, Tu, dai, forza, rispondi, Vincent De Maio, rispondi dall'altra parte. Come vedi questa partita? Almeno noi abbiamo il tempo di gestirci qua un secondo. Esultano a Radio Padania, esultano. Parenzo, esultano a Radio Padania. Vabbè, ma è una radio che sta subendo una trasformazione. Da qui a qualche mese si parlerà soltanto arabo in quella radio. Ci sarà uno spazio per i cinesi, ad esempio, che sono tantissimi. Ci sarà la ricetta del kebab, via la polenta. Ci sarà un immigrato. Fammi sentire che succede. No, al ventesimo si è accorto di aver sbagliato il doppio colore di scarpe e magari ha detto Fanny hai sbagliato le scarpe, quindi è piuttosto incazzato. Secondo me davano la partita già, la davano già per vinta, che è una roba del casa. Genere, non erano abbastanza concentrati. Inghilterra a casa. È un programma, guardi, radiofonico, com'è che si chiama? La Zanzara, da chiudere subito, guarda, da chiudere. Gerani sui Balcani che vengono lontane le zanzare. Oh, è finita la partita, Parenzo, è finita la partita, meno male, è finita la partita. Scalfarotto contro Giovanardi ieri sera, sentite, ovviamente si parla di Froci, E le decisioni devono essere prese in linea con il resto del mondo civilizzato, noi non possiamo restare indietro, il senatore Giovanardi non può essere la zavorra di questo paese. Allora io penso che noi dobbiamo arrivare a questa decisione e il Parlamento, la zavorra io la vedo alla mia destra, scusi, io sono tollerante, ma le offese non le accetto, chiaro che zavorra sarai tu, ma ci tieni nel Medioevo Giovanardi, io la penso in una certa maniera, sì. Ho il diritto di esprimere le mie idee. Giovanardi incazzato perché Scalfarotto lo chiama zavorra di questo paese. Sofia, portami via, non voglio più mangiare. Io sono molto più avanzato di te, perché non vado a vedere cosa fa a letto la coppia che si mette assieme per solidarietà e convivenza. Quindi qualunque coppia che vive in quella condizione la tutelo da ogni forma di discriminazione. Non ne faccio una battaglia ideologica come la vostra, ne faccio una questione di libertà, dando a tutti quelli che vogliono vivere in una condizione di solidarietà diritti. Ma io non, niente discriminazioni, io non possibilità di assistenza, noi non viviamo in possibilità una di successione, di possibilità di intestarsi, non vedo perché lo dobbiamo dare solo a uomo e donne donne. Mettiamo Gerani sui Balcani che vengono lontani. male le zanzare. Va bene, Angelo, provincia di Roma, buonasera. Buonasera. Dica. No, volevo dire, parlare con Parenzo per il problema degli extracomunitari. Eccomi. No, buonasera. Dai, vai, vai, Angelo, forza. Scusa, sono un po' emozionato. Io sono un elettore di centro-sinistra, sempre tutto a sinistra, però mi rendo conto che con gli extracomunitari abbiamo oggettivamente problemi. E il buonismo della sinistra, molte volte, porta acqua al mulino della destra. Ma non c'è nessun buonismo. Quello che tu non capisci, ti do del tu, purtroppo. Certo, tu, grazie. Ti chiamo compagno perché ovviamente... Ma perché compagno? Chiamiamo... Quale compagno? Scherzo. Caro compagno, tutto a sinistra. Sì, quello che devi capire, compagno, compagno che sbaglia, è che la questione non è immigrati buoni o immigrati cattivi, non è questo, io non è che dico devono venire tutti qua, non ho mai detto stupidaggini di questo tipo. Io odio il razzismo, io odio soprattutto i luoghi comuni, su qualunque cosa, in particolare sugli immigrati. Ci sono dei luoghi comuni che sono agghiaccianti. Cazzo, ma in questi giorni la cronaca ci racconta di quello che è successo a Pavia, di quel padre di famiglia che ha ucciso la moglie e i due figli di Pavia. Caspita, l'altra, no, ma che parte, c'entra la, questo? Scusa, la cosa c'entra? Cioè, ma c'entra perché rispetto ai crimini commessi dagli immigrati vengono percepiti e sentiti molto molto molto di più di tutti questi ladri che hanno, guarda, guarda cosa è successo a Venezia col consorzio Venezia Nuova, rubano molto di più i colletti allora? Bianchi. Beh, allora si creano dei luoghi comuni pazzeschi, è quello che noi dobbiamo combattere. E oggi lo faremo anche su Radio Padania. Ma lo faremo chi? Lo faremo chi? Noi lo ma faremo. Ma noi chi? Io. Noi chi? Noi, quelli che la pensano come me, quella parte costruttiva della zanzara, quella parte meno populista, quella parte che parla meno al sottombelico, quella parte, quella pars construens di questa trasmissione radiofonica, che non vuole titillare le palle, sì, del leone, come fai tu, perché tu titilli le palle del leone. Ma quando che poi stai il leone, sai cosa vuoi? Vai lì dal leone, sì, vai. E il leone è chiaro che si arrabbia perché lo titilli, lo stuzzichi il leone, cioè stuzzichi la bestia che è dentro la gente. Angelo, questo è il fatto. Ascolta, no, volevo dire soltanto una cosa, che se però vai nei luoghi anche che io frequento, che sono tutti luoghi tendenzialmente sinistra, il problema del piccolo fusto, la bicicletta, il furto in casa è molto sentito. Io capisco che esiste un problema di corruzione molto più grande, di leggi fatte apposta per i potenti, sono perfettamente d'accordo su questo, però la gente comune è colpita anche dallo zingaro che ti scassa la casa, è colpita dal fatto che la mattina esci di casa e non trovi più lo scooter sotto casa e devi spendere €1,000 per ricomprarlo e €2,000 un mese e mezzo di lavoro, cioè anche questo. Ma è chiaro che quando uno subisce un atto di questo tipo, un atto violento di questo tipo, che può essere sia lo scooter che ti rubano, sia delle persone che ti entrano dentro casa, che è una cosa pazzesca, gravissima, e questo è evidente. E allora? È percepito molto di più rispetto però alla quantità. Questa è una cosa che nessuno difende. Ma è normale che ti giri io il culo molto di più. Io non difendo chi ruba, questo è il fatto. Io sono contro. Ma è chiaro che non lo difendi, però che ci sia un problema in alcuni contesti, è evidente. Che ci sia un problema, è evidente. Il problema c'è perché voi siete degli, voi, tu e altri, anche molti politici, siete degli imprenditori della paura. Sì, vabbè, d'accordo. Allora non esiste questo problema, benissimo. Alcuni politici sono imprenditori della paura, cioè costruiscono attorno alla paura la loro fortuna elettorale. Sì, non esiste questo problema. Guarda cosa è successo su Novi Ligure. Ma che c'entra? Ma quegli omicidi esistono ovunque gli omicidi, dai. Ma subito era più comodo dire che a Novi Ligure erano stati degli zingari o degli albanesi. Vabbè, o una banda di non esiste, ucraini, secondo Parenzo non esiste il problema violenza, furti, come in tutte le società, se un reato lo commette un clandestino non fa niente, uguale. No, è un reato. Ma grazie che è un reato, certo che è un reato. Io non metterei l'etichetta. Benissimo, reato, Nicola da Padova. Benissimo, ho capito, Nicola da Padova, Nicola. Buonasera. Dica. Nicola Padova. Niente, volevo capire se Parenzo abita ancora a Padova o abita in Australia o in altri paesi. Sono arrivato, sono sbarcato da poco nella mia città natale, a Padova. In questo momento sono a Padova, domani alle 10:30 per esattezza sarò in Prato della Valle, in Prato della Vae, a passeggiare con la mia bicicletta. Come? Non a passeggiare con Bitonci, allora. No, il signor Bitonci è di Cittadella. Cioè questo non c'entra nulla. Il signor Bitonci è nato a Padova e non è nato a Cittadella. Ma ha fatto il sindaco di Cittadella, e se è di Cittadella, insomma, il sindaco di Padova, gli facciamo tanti auguri. gli facciamo tanti auguri. Globalizzata, credo che anche se una persona di Cittadella fa il sindaco di Parma non sia un problema, come se io che sono di Parma facessi il sindaco di New York, credo che questo non sia un problema. E comunque vorrei dire, chiedevo se lei abita ancora a Padova, che forse non si rende conto delle difficoltà che ha la città di Padova rispetto all'immigrazione clandestina e ai reati e ai furti che ci sono e alla criminalità in generale. No, ma per Parenzo queste sono cose normali, sono cose normali. Che è perpetrata per lo più dai immigrati clandestini, ma questo è dimostrato dalle statistiche. Se lei guarda quante persone ci sono in carcere in percentuale rispetto agli italiani, perché sono quelli, sono spesso gli unici che ci finiscono in carcere, tra l'altro. Ma no, gli immigrati, perché non avendo, molto semplice, se uno viene in Italia e non ha un lavoro e non riesce a lavorare, deve poter vivere, per poter vivere deve delinquere, quindi è un assioma abbastanza semplice da capire. Allora, sì, ma Parenzo non lo capisce, per Parenzo è una variabile come le altre, cioè la presenza di extracomunitari, magari di clandestini, anzi sicuramente di clandestini, è una variabile come le altre, che tanto non ci si può fare niente, purtroppo ci sono, arrivano, si spostano e dunque non ci si può fare niente, bisogna come dire vabbè, sì, vabbè, ti rubano a casa, ti rapinano per strada, ma non ti rapinano, ma dove vivi che ti rapinano? No, in alcuni contesti sì, in alcuni contesti sì, da Far West. Io sono, ma in alcuni contesti ho detto, in alcuni contesti non ho visto. Vabbè, ma che c'è? Ho visto massimi, ma certo che c'è, di colore, ho che detto, stavano rubando il portafoglio, detto, e prendo sempre i mezzi pubblici io, peraltro, come sai, sia a Milano che a Roma. Nicola, parli lei. Prego, chiedo scusa, io non faccio discussione da Far West, sto dicendo che in un periodo in cui il Veneto, Padova o comunque l'economia locale dava dei risultati che potevano consentire di lavorare anche a persone che sono state una risorsa per le nostre aziende, nessuno discute questo, ma immigrati lavorano nelle fabbriche, ma nel Vicentino, quanti immigrati lavorano nelle concerie, lavori che gli italiani non volevano più fare? Ma che cosa stai dicendo? Nelle concerie del Vicentino che io ho visitato, nella zona di Marostica dove è nata la mitica Diesel, la fabbrica del signor Rosso, e in tutte le fabbriche del Vicentino, nelle concerie, quel lavoro schifoso che è stare dentro le concerie, che è un lavoro durissimo, terribile. Ma che c'entra? Quanti immigrati c'entra? Lo fanno? Se non ci fossero loro, chiedilo ai miei amici imprenditori del Nord-Est. Ma questo non c'entra niente, ci sono persone, migliaia di persone clandestine in Italia che in Italia non dovrebbero entrare e che in altri paesi sono trattate come devono essere trattate, come clandestini, come persone che in un posto non possono entrare. Se c'è qualcuno che deve entrare a casa, non ci vogliono stare in Italia perché c'è talmente tanta corruzione che è superiore. Ma non dire stupidaggini, non dire stupidaggini, non dire stupidaggini. È come qualcuno che bussa a casa tua e che entra senza permesso, capito? Entra senza permesso. Siccome non ci può, poi si inventano. Ma cosa fai? Ma fai l'assessore di Bitonci? Ma che c'entra? Ma cosa c'entra? Ma cosa fai? Il sindaco, vabbè, lo sceriffo della Zanzara. Vabbè, Nicola, grazie. Alberto da Modena, non c'entra niente. È come qualcuno che vuole entrare. Tu faresti entrare qualcuno a casa tua senza permesso? No. E allora perché gli altri devono rompere i coglioni? Ma cosa vuol dire? No, vuol dire Alberto da Modena. Sì, certo, Alberto da Modena. Alberto da Modena cambia argomento. Volevo solo dire che io sono una persona di destra, sono sempre stato di destra. Sono andato sabato scorso a un matrimonio gay fra due uomini e l'ho trovato assolutamente Scusi naturale. Alberto, dove è andato a questo matrimonio gay tra due uomini? Perché in Italia non ce ne possono essere. Sono andato alla chiesa qui di Sant'Ignazio di Loyola, Castello dove? Di Monterado, Ancona. Sì, ma Ancona, ma non è che in chiesa si possono sposare due gay? No, ma questo è rito vetero-cattolico. Cioè? Cioè la chiesa di Utrecht, quindi è, io non sono particolarmente ferrato su questo argomento, però ho partecipato a questo matrimonio e volevo solo dire che, e dare la mia testimonianza, che sono assolutamente d'accordo di una cosa secondo me naturalissima. Ma io non ho capito una cosa, in questa chiesa chi si è sposato secondo il rito vetero cattolico? Non si può sposare nessuno? Due uomini. Un mio ma amico, che rito è? È un rito cattolico, però della chiesa di Utrecht. Della chiesa di? Utrecht, un altro è un Utrecht, rito di Utrecht. Sì, Lorenzo, tu che sei più acculturato, conosci questa chiesa di Utrecht? No, francamente ammetto la mia ignoranza in questo campo e non avendo neanche Wikipedia non posso neanche digitare su Google, dice forse cercavi, sai quando sbaglia a scriverlo, che ti dice forse sbaglia a scrivere il nome, no? E dice forse cercavi, cretino, perché sbagli a scriverlo, non ho neanche il computer davanti per poter verificare, ma mi fido di questo simpatico ascoltatore dalla mente aperta e libera, ed è una persona per bene, fino a vedi che chiamano anche persone per bene, ma cioè vai, che bella, vai. Belle persone chiamano. Zanzara! C'è una zanzara tigre. Ehi, ciao ragazzi, vi voglio bene, ciao. Ruggisce tutta la notte e dorme in un tombino. C'è l'aria nel letto. È davvero incredibile quello che è accaduto a Tommaso Cerno, caro Parenzo, Tommaso Cerno, giornalista dell'Espresso, il quale ha semplicemente detto delle cose su la spiaggia. Su una spiaggia, su una proposta che è quella di fare una spiaggia per i gay riservata agli omosessuali eccetera eccetera a Lignano Sabbiadoro, ha detto, ha risposto a uno che è contrario dicendo che è un omofobo. Adesso lasciamo perdere la questione, secondo me è sbagliato fare una spiaggia riservata agli omosessuali, è giusto promuovere il turismo gay in genere con delle iniziative, ma una spiaggia dedicata come volevano fare, come vogliono fare alcuni a Jesolo, a Lignano Sabbiadoro. Beh, che male c'è? Ma no, ma non ha senso, dai. Ma non nel ha senso che può essere come un, circolo, come un circolo privato. Ma sì, ma non ha senso prendere un pezzo di spiaggia e dire questo qua è riservato a... Come c'è quella per i nudisti, se a loro piace, io la vivrei come un... Ma no, ma i nudisti possono essere gay, non gay, eccetera. Appunto, ti dico, come spesso i nudisti chiedono che venga riservato, dico, noi qui vieni in questa spiaggia però ti devi spogliare nulla per forza. Dici, no, guarda, fratello, scusami, ma a me non mi va. Allora, no, ma guarda, quello è diverso. È diverso, regola. Tu sai che c'è la spiaggia per nudisti, esatto. Ma cosa c'entra questo? Se la vogliono loro, a me si è basata la richiesta, ma se sono loro a chiederlo perché, come dire, come un circolo, no? Come dire, io ho questo circolo dove qui devono avere tutti il costume blu, e diceva bene. Ma no, ma non ha, ragazzi, fare una spiaggia riservata a single e a persone della comunità LGBT, ma si può anche fare, ma non ha senso. Non è che uno fa una spiaggia, lo chiedono loro e si può fare, pagano e la fanno. Dov'è il problema? Ma no, perché si tratta di concedere degli spazi, eccetera, eccetera. Comunque, beh, certo, di avere, comunque, come al di là di questo, c'è una discussione. Dire. C'è una discussione. Un tizio. Lui si è opposto a questa, diciamo, è favorevole, anzi Cerno, a questa roba qui, lo hanno insultato su Twitter, è un tizio che si presenta su Twitter con il nickname di Loculo1, ha scritto: finocchio di merda, stasera sei invitato a cena, porta anche i tuoi amichetti mi raccomando, e c'è una tavola imbandita con tutti i cappi messi lì al posto di questo signor Loculo, il quale si presenta con una foto di Hitler. Beh, il nome non è appassionante, diciamo. Non so se sia peggio quel depravato di merda di Tommaso Cerno o quei quattro pecoroni coglioni populisti che lo difendono, atroce dilemma. Questo signor Loculo è ancora in vita, cioè no, in vita, adesso lo pizzicheranno in qualche modo, perché non è che uno se lo può... auguro. Vabbè, lo auguro. Ma questo qua deve essere semplicemente, come dire, cacciato da Twitter e basta, cioè, che gli Beh, vuoi fare? Anche un po' sanzionato. Ma sanzionato che cosa? Cioè, sanzionato è semplicemente un coglione, sanzionato che... Beh, vuoi la foto di Hitler addirittura. Ma che vuoi sanzionare? Che vuoi sanzionare? Odio razziale? Vabbè, mettiamo odio razziale. Certo. Ma beh, sì, vabbè. Ma uno, se no, per l'odio razziale che cosa deve fare? Spiegati, stuprare quattro ore, cos'è che deve fare? No, ma istigazione all'odio razziale. No, ma quale, certo, se uno mette finocchio di merda. Di quello che deve fare. No, certamente, se uno mette finocchio di merda. Ma cosa mette deve i cappi? No, ma infatti in questo caso, secondo me, chiedo con discrezione e senza arrabbiarmi, chiedo uno che ha il nickname Loculo, e vabbè, quello passi, c'ha la foto di Hitler, sì, dice finocchio di merda, dice vieni a cena e fa una tavola con dei cappi, cosa deve fare uno di più per andare in tribunale e pagare, ecco, e pagare di più, cosa deve fare? Non lo so, di più, c'è ancora qualcosa in più? No, effettivamente, effettivamente mi sembra... Se no, va poco male, ma che ha fatto? Ma che ha fatto? Insomma, si presenta con Loculo 1, e vabbè, d'accordo, è passivo. Perché poi Loculo 1 presuppone che ci sia anche Loculo 2, Loculo 3, invece non c'è più. Loculo, poi si presenta Loculo 1, poi c'è la foto di Adolf Hitler con la svastica e tutta quanta, come foto di presentazione. E vabbè, diciamo, passi anche quello. Ci sono al limite, proprio. Ci sono tante follie, no? Ci sono tante follie. Poi dice, che... esatto, finocchio di merda, e vabbè, già lì, vieni a cena e fai una tavola con dei cappi, con gli amici tuoi, ma che devi fare di più? ti chiedo, non lo so. Sì, devo dire la verità, su questa roba qui hai ragione. Uno che prende una foto con dei, no, mette dei cappi, eccetera. Ma scusa, una sanzionatina, piccolo, una sanzionatina va data. Poi se per caso, sì, per caso di notte questo signor Loculo si aggira per la città e improvvisamente, sempre di notte, qualcuno, questo signor Loculo molto garbatamente, gli tira anche due calci nel culo, beh, io francamente non è che piango per questo signor Loculo, Vai avanti tu. Il professore avvocato Carlo Taormina, incazzatissimo con la Zanzara. Perché? Non lo so, non ho altro da dire a Cruciani, Parenzo e Zanzara. Sono indignato e farò quel che riterrò. Addirittura è finito su tutti i siti, Farò quel che riterrò più adeguato ai miei interessi e alla mia dignità. Farò l'inventario dei miei successi professionali. Li produrrò a Procura Roma con querela contro Cruciani, Parenzo e Zanzara. Diffamazione e danni. Dico con serietà a Cruciani e Parenzo che mi si riferisce, che mettono in cattiva luce la mia professionalità di avvocato. Li diffido. E non c'è niente da fare, ho cercato di fare capire all'avvocato professore Carlo Taormina. Ho chiamato, ho mandato dei messaggi su Twitter pubblici in cui ho fatto chiaramente capire che noi non abbiamo nulla contro la sua professionalità. Abbiamo fatto delle battute un paio di volte, ma niente di strano. Lui ha detto di peggio su mille altri argomenti. E seconda cosa, perché si è incazzato questa volta? Perché Luxuria vuole mettere forse una sagoma del professore Carlo Taormina al Gay Village con la gente che tira le freccette. Beh, dopo tutto quello che ha detto sui gay, sarebbe anche una cosa scherzosa. Non bisogna farlo, secondo me, però potrebbe essere una cosa scherzosa. Il terzo ancora non l'avete scelto. Secondo me l'avvocato Taormina ci potrebbe stare, l'avvocato. Per il momento è quello più accreditato, gettonato. Però aspettiamo un attimo, perché sai, le sorprese non finiscono mai. Sono certo, sicura che voi scoverete qualche altro gioiello da qualche altra parte. Ma io sarò bagato in testa, andato fisca, se bagato in testa che bagato in culo, scusi, tanto per parlare con chiaro. Beh, caro Vladimir, mi sembra che possa bastare per entrare, come dire, nel... Mi sta convincendo. Ti sto convincendo, Molti sì. Alcuni lo vogliono portare in tribunale, lo sai, per quello che ha detto. No, io vorrei mettere due fotografie, una di Ricky Martin in costume e una di Carlo Taormina in costume, per vedere chi le anomalie fisiche, non lo stanno queste anomalie fisiche, no? E magari ti stupisce l'avvocato professore in costume, non credo. No. Beh, però in questo caso qua io l'ho quasi difeso. Magari ti stupisce, no? In costume l'avvocato paragonato a Ricky Martin, perché lui ha parlato di gay che hanno anomalie fisiche, il professore, no? Ma non capisco perché ce l'ha con noi il professore. Non capisco perché l'avvocato professore ce l'ha con noi. Sempre dire avvocato professore, avvocato professore. Ancora, continua Luxuria. Secondo te, adesso, queste robe qui, no, dell'avvocato professore, sono delle robe da tribunale? Ma guarda, io, uno come Carlo Taormina, non ci perderei neanche tempo. Mi sembra talmente fuori dal tempo, forse anche un po' fuori di testa, non lo so, forse la vecchiaia gli sta a far male. Non lo so, mi sembra talmente una caricatura di se stesso che sinceramente io non perderei. Cioè ti sembra un po' malato, diciamo, da questo punto sì, di vista. Sì, sinceramente, ti dico proprio, perché il tipo di... Io capisco anche uno che non è d'accordo su certi temi, no, se ne parla in maniera... Certo, chiaro. Ma uno che dice queste cose mi fa schifo. E perché, capito? Ti farò quello che vuoi. Ma che mondo è questo? Beh, caro professore avvocato, amico mio, non ce l'abbiamo con te, ma figuriamoci, grande compagno di battaglie, non ce l'abbiamo con te. Ormai è tutto degradato. Ti fai cercare un altro. Ma che mondo è questo? Ma che mondo? Michele Bologna. Ciao, buonasera a tutti. Volevo dire a Parenzo che mi trovo d'accordo in parte sul fatto degli extracomunitari e soprattutto di una categoria di queste che sono i Rom, perché ci sono delle famiglie che educano purtroppo i loro bambini, parlo di Rom, ad essere dei delinquenti. Certo. Li educano a rubare, lo educano ad entrare in casa come fa il Cippi. Per cui non si può neanche dall'altra parte generalizzare e prendere tutti e farli tutti bravi e buoni. Nello stesso tempo altri extracomunitari di altre razze che arrivano in Italia purtroppo per altri motivi, si trovano in Italia clandestinamente, ma questo è un altro discorso, ma si trovano in Italia e non hanno nessun tipo di appoggio economico, per cui devono obbligatoriamente adattarsi a una microcriminalità o a una grossa criminalità. E questo non è un fatto razziale, è un fatto sociale. È per questo ma che... Parenzo non capisce. No, Parenzo capisce perfettamente. Ma siccome abbiamo vissuto... Questo è sacrosanto però, Parenzo. Cioè non è che... Siccome è molto facile... È quasi facile, come la matematica questo. Ma in tutti questi anni, se noi dovessimo mettere insieme, diciamo, mettiamo i furti anche soltanto, ma cosa vuol dire? Commessi dai Rom. E quanto hanno rubato al consorzio Venezia Nuova? Beh, ma ragazzi miei, ma di che cosa? Ma certo, però quelli di Venezia Nuova non è che li ma cosa c'è? Fuori. Ma non puoi paragonare queste cose, dai. Che in Italia ci saranno sempre, i ladri non li sconfiggerai mai. Ma io penso sono che le forze manco... dell'ordine guarda che devono avere più che... potere. Ma le leggi certo, devono avere più siamo potere. D'accordo. Ma io credo tutti che tutte quelle altre razze che purtroppo per motivi che manco... sociali fanno del danno, devono essere presi e mandati fuori. Punto. Sono la razza umana, ma ti voglio dire questo, guarda, neppure in 30 anni di onorata attività della più efferata banda rom criminale, che non so neanche come si chiami del paese, in 30 anni di attività secondo me non si arriva alle cifre che in pochi anni hanno rubato. Ma questo cosa c'entra? Ma dai su, quindi, che paragoni ridicoli. No, quindi giusto per dire che è evidente che chi c'è la casa svaligiata si sente ferito e si sente, come dire, violato nella propria intimità, questo è straevidente in termini anche di paura, di percezione del che è ovvio, no? Subisci una cosa di questo vabbè. Tipo, è chiaro che ne rimani ferito e scosso, ma c'è, come dire, un allarme criminalità che è esagerato. Secondo Parenzo l'allarme criminalità sugli extracomunitari, sugli stranieri, è esagerato. E che vogliamo fare? È fatto così, che vuoi fare? Non so se ha visto la partita Oliviero Toscani. Oliviero, sì, ho visto gli abbattini. Mamma mia, come gli abbattini, scusa Oliviero, gli abbattini sono ritornati, gli abbattini. Cioè è una cosa imbarazzante, diciamo la verità. Una partita in Serie B. Beh, anche gli altri giocano in Serie B, dai. Vai in Serie B. Il Gorgonzola contro la, non so, la San Marinatese, non so. Ma una partita in Serie B. Cioè una tristezza infinita, diciamo la verità. Sì, tristissimo. Tristissimo. Io non ho capito una cosa, ma tu non so se poi segui il pallone, eccetera. Perché abbiamo cambiato squadra rispetto a quella con l'Inghilterra? Cioè funzionava, più o meno funzionava, abbiamo cambiato. Beh, ha funzionato lì, adesso non ha funzionato. Sai, siamo italiani, siamo imprevedibili, inaffidabili, quindi funziona così con noi. Ma tu un po' hai goduto o no per la sconfitta dell'Italia? No. No, ma che goduto, ma devo godere. Cioè tu fai il tifo per l'Italia? Ma no, ma è chiaro, sono simpatici, poveri ragazzi, ma là fa tutta la fatica. Povero Ballottelli, lui che vuole andare a casa con la coppa, vedi, parliamo sempre troppo in fretta. Sì, sì, è vero, è vero, è vero. Siamo dei pirla. Sì, sì, questo è vero, siamo dei pirla. Abbiamo, in fretta, dopo la prima partita, tutto, dopo la prima vinto, partita. E poi la stampa di grandi campioni, avevano già vinto la coppa. Sì, sì, comunque domani invece li bastoneranno. Esatto, domani saranno tutti dei brocchi. Bastonare dei brocchi, coglione, eh. È logico, è così. È così, vabbè, comunque siamo abituati. Un attimo solo che c'è la borsa, credo. 2-3 minuti, poi torniamo con... Dove ti trovi, Oliviero? Dove sei? Sono arrivato da Parigi, adesso a casa. Voglio stare qui il weekend, poi riparto per Parigi lunedì. Ronda, ronda, ronda, se va bene ronda. Intanto vi benedico e vi esorcizzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Oh, intanto ho scoperto, David, che c'è effettivamente l'Unione di Utrecht delle Chiese Vetero-Cattoliche. Esiste la sì. Utrecht, che evidentemente celebrano dei matrimoni gay in Italia nelle loro chiese, che non sono come le chiese cattoliche ovviamente, ma è la Unione di Utrecht delle Chiese Vetero-Cattoliche. Ma, dove, sì, ma è normale dai. Dove secondo un ascoltatore di prima si è celebrato un... Ma sì, matrimonio. Ma solo in questa piccola italietta fa ancora notizia questa roba, ma voglio dire, ma la gente si ama, ma soltanto a Radio Padania pensano che quando c'è un immigrato per strada quello ha rubato, ma nei paesi civili c'è gente che non vive nel mondo, che non è mai stata a New York, non è mai stata a San Francisco. Ma tu parli del matrimonio gay o di altre ma cose? Ma parlo di tutto, della pochezza, chiusura culturale della mente di questa gente, cazzo, ma non voglio neanche arrabbiarmi oggi, perché ormai c'è anche il cane che abbaia, sentilo, è arrabbiato per Bitonci, senti, si ribellano tutti qua. Però città. Io voglio dire una cosa, ma che si ribellano tutti? Scusi, tutti Oliviero, città, a Padova, dai. Che è una grande città, ha vinto la Lega, ha vinto un sindaco della Lega, che vogliamo dire? Parenzo è incazzato come una bestia. Eh beh, Parenzo è l'eccezione di Padova. Cioè, in che senso? Che a Padova sono rincoglioniti tutti? Abbastanza. Sicuramente, sai, la maggioranza è democratica, no? Sì, però sì. Quando la maggioranza è cretina, c'è una democrazia cretina. C'è poco da fare. Ho capito, magari questo qua farà bene a Padova. Ma dai, ma che anno è? Ma questi qua sono fuori dal mondo, ha ragione Pareto. Ma che viaggino, ma non si può più avere quella testa lì, deve essere proprio essere dell'italietta. Guarda, prima sentivo parlare della razza, i Rom, quello là diceva le varie razze. Sì. Per fortuna, quello lì di Motta Visconti non era un Rom, non era nero, non era un immigrato. Sennò chissà cosa avremmo detto. Si scattava effettivamente, italiano. Ma l'abbiamo detto, padano. Quando un padano ammazza, va detto è un padano, visto che non vuole essere italiano. No, devo dire la verità, una cosa è vera, che se ci fosse stato, se ad ammazzare una donna insieme ai figli fosse stato un extracomunitario, ci sarebbe stata la caccia per strada agli extracomunitari. Ma vi ricordate in quella discoteca fu ammazzato un ragazzo, tutti dicevano che era un extracomunitario, la caccia, poi scoprirono che era un ragazzo locale, allora no, va bene, poverino. No, dai, siamo un paesino. Uno che dice, ho sentito uno dire prima delle le razze diverse, mandiamola a casa. Ma non sa che esiste una sola razza, quella umana. Gli uomini hanno una sola razza. Guarda, scusami, Olivia. E c'è anche quel coglione di prima, che è un testa di cazzo che appartiene alla mia razza. Scusa un attimo, però il sindaco di cosa? Il sindaco, il nuovo sindaco leghista di Padova, l'amico di Parenzo. Lui appartiene alla mia razza, sono vergogna. Come? Appartenere alla razza umana. Ma no, dai, su. Sì, dai, cioè ti vergogni di appartenere alla stessa razza di Sì, esatto. Cioè perché sono disumani, non sono umani queste persone qua. No, subumani, non disumani. Sono subumani. Comunque, scusami, ma Cruciani, ma ragioniamo su una cosa, ma come primo atto questo sindaco nuovo della Lega, come atto rivoluzionario, non ci devono più essere i barboni per strada. Ma ve lo ricordate Gentilini? Ma ve lo ricordate Gentilini? Sì. Ma un disastro, è una diarrea umana. Beh, però Gentilini ha governato a Treviso. Non mi pare che a Treviso ci fosse una diarrea. Vabbè, dai, su. Ma è vergognoso. Ma Bitonci vuole fare un giro di vite sulla sicurezza. Vuole fare un giro di vite sulla sicurezza. Non ha fatto altro che incrementarla. Così. Ordinanze contro i barboni. Ordinanze contro i barboni. Che facciano i barboni? I barboni sono quelli che rubano al Mose. I barboni sono tutti quegli italiani che hanno quel potere di imbrogliarci, tutti questi corrotti, corruttori e corruttibili. Sei sulla linea di Parenzo, questi qua sono i barboni. No, peggio, Parenzo è moderato rispetto a te, è moderato. Sì, moderato. Cioè, non voglio dire una cosa, se il comune di Padova ti invita per fare una cosa non ci vai, adesso è guidato. Fatti una scoreggia. Ma come? Cioè, se ti invita a fare, che ne so, una mostra fotografica a Venezia. Fatti una scoreggia. Ma dai, Oliviero, su. A fare imbecilli, ma cos'è che invitino? Questi qua sono gli analfabeti. Ma non capito, ma i padovani si sono impazziti allora? Sì, quelli lì sì, mica tutti, chiaro. Mica cioè, tutti. Quelli che hanno votato la Lega sono degli imbecilli, dei cretini a Padova. Di più. Non vorrei insultare gli imbecilli, no? Dai, su, comunque. Come dai, su? Ma siamo. Ma Cruciani, che anno siamo? Questi qua dove sono? Ma siamo pazzi, qua sono ho capito, ma questo per esempio vuole fare una roba sul Parenzo, dimmi qualche provvedimento che deve fare, non mi ricordo. No, ma che faccia provvedimenti questo qua inciampa e basta, inciampa senza inciampare. Ma come inciampa? Ma cioè... sì, uno che inciampa, dai, cosa che faccio? Dire non vogliamo, la priorità è i mendicanti, ma come i mendicanti? Ma che cosa fa? No, vuole fare delle ordinanze contro quelli che chiedono, contro i mendicanti in città, contro i mendicanti. Ma che ordinanza è? Che male fa un mendicante? Cosa fa un mendicante? Ti chiede un euro perché non c'ha una lira, poveretto. È che questi qua non vogliono vedere contro i massacurati, faccia le ordinanze contro gli sindaci di Venezia. No, ragazzi, è uno. Scusami, ragazzi, qui ci vuole evidentemente, se l'hanno eletto, caro Parenzo, ci vorrà più sicurezza, un po' più di ordine contro gli accattoni, contro i barboni. Ma cosa siamo nella Detroit negli altri? Multe anti accattoni. Scusa, è Olivier. Sfollati i campi nomadi e si studiano ordinanze contro i barboni, multe anti-accattoni. In tre giorni Bitonci ribalta Padova. Ma io guarda, io fossi un barbone andrei a dormire davanti al comune di Padova per dei giorni, rimarrei lì con tutte le coperte. sono questi qua i grandi problemi dell'Italia. Ma ragazzi, non stai scherzando. Vabbè, nell'amministrazione di una città può essere che sia un problema, eh. Cioè... Ma appunto, perdono tempo in cazzate secondarie. Cioè, dai, poi pongono la questione in modo bestiale, come fosse un problema di decoro. Ma come si fa a parlare di uomini anche, in termini di decoro? Vanno fatte anche quelle cose lì, ma non sono cose primarie. Dai, ma faccia delle cose serie. Allora, voglio che Oliviero giudichi questa meravigliosa canzone, perché dal punto di vista della fotografia, lui secondo me è su questa strada qui. Sentite Del Bufalo, Diana Del Bufalo. Bikini, sole, mare. Le ragazze si preparano a brillare. Spendono un occhio della testa dall'estetista. Secondo me devono andare dall'analista. Tutto questo per farsi una dolorosissima ceretta. Io invece ce l'ho pelosa. Fanculo gli stereotipi sulle riviste. Ce l'ho pelosa. Fanculo quelle acide delle estetiste. La natura è bella perché è sincera. Beh, caro Oliviero, è l'esaltazione. Tutta figa, No, ma è l'esaltazione, Oliviero, della figa pelosa che ha dei peli. È tutto figa, sei. Ma ha ragione lei, no? Ma figo, ma benissimo, figurati. Ma tu hai fatto delle straordinarie fotografie, mi sembra, no, da questo punto di vista. Ma è logico, donna pelosa, donna virtuosa. Beh, siamo al top, Parenzo, siamo al top. Cioè, è molto meglio. È molto meglio la donna. L'origine del mondo, che tu, siccome sei ignorante, non ce l'hai presente. C'è un quadro meraviglioso che si chiama L'origine del mondo. Sì. Che diciamo è cantato da questa signora del bufalo, no? Questa, l'origine del mondo, se vai a vederlo, è un quadro. No, ma poi a un certo punto è passata di moda, diciamo, la come si chiama? Io la chiamo solo figa, com'è il termine più soft? La vagina, com'è? No, il pube, com'è? No, com'è la, no, il pube è quello dell'uomo, com'è? Ragazzino, i termini. La patonza. Paterotta. Esatto. Madonna, sì, vi sì. Siete dimenticati pure di parlare di finocchi. Voi vi siete dimenticati. Sì, pure questo è vero. Parliamo spesso di finocchi, non troviamo più la parola. Ma qual è l'interesse? Siete dimenticati il nome della figa. No, è bene, qual è bene. L'interesse di Radio 24 per questo tema che tu sovente vuoi affrontare? No, ma perché è un tema fondamentale. Scusa, ma non ho capito. Ma guarda, che non è che si deve parlare per forza. Visto che non ne parla la Chiesa, ne parla Radio Zanzara. No, ma esatto, visto che la Chiesa non vuole parlare di questi argomenti. Anzi, ne rifiuta perché ha un senso di colpa. Sì, sì, è vero. Parla è vero. Senti, in Veneto vogliono fare a Lignano Sabbiadorio delle spiagge riservate agli omosessuali, alla comunità gay. Secondo te è un ghetto oppure un segno di civiltà perché attrae il turismo omosessuale, eccetera? Ma se io trovo che questa roba qui è razzismo. Sì, sì, anch'io. Ma perché? Scusa, anche tu voi insistete col coming out. Ma perché dovevi fare il coming out? Perché tu hai fatto il coming out, sei normale, ma forse non lo sai neanche, hai fatto il coming out. Ma perché non devi fare il coming out? Ma figuriamoci. Appunto, ma che cazzo sono queste cazzate qua? No, ma uno io non deve dichiarare che dove. No, quello no. Dunque, allora, fare una spiaggia dedicata, eccetera, è una cazzata. Ma totale, una roba da ghetto. Da ghetto, sì, da nazisti proprio. Sì, sì, assolutamente. Ciao Oliviera, a presto, ti abbraccio. Ciao, ciao ragazzi, ciao, fate ciao, bravi, non ciao. Parlate più di queste robe. Di Froci, basta. Di figa, dai, ciao. Sì, ciao, sì, ciao, ciao, ciao. Dobbiamo fare una telefonata, eh. A chi? Voglio pizzicarla, però voglio vedere come ha visto la partita. Sì. Lo so, voglio sentire come ha visto la partita, come l'ha vissuta, un attimo. In galera, scusi, in galera, ministro Cancellieri? Sono Cruciani, buonasera. Ma lasci Fabio, pure oggi, ma non c'è un po' di senso, non c'è un po' di rispetto per il lutto di una persona. Ma che succede? Ma che lutto? Ma ha detto in galera, stava dicendo prima, proprio lei dice in galera. Esatto, esatto. C'è l'Igresti fuori, l'Igresti fuori e in galera chi ci deve andare? Scusi, ministro. Non so se ha visto adesso, c'è stata l'intervista di Ripandelli. Sì. Ecco, sembrava il gobbo di Notre Dame. Testa china, questa gobbona, questa faccia inespressiva, poi guardate pure Buffon, ecco, era la quintessenza della vispa tedesca, è una cosa vergognosa, è vergognosa, sono stati indecorosi, questa non può essere l'Italia, in galera, tutti quanti in galera, via. Ma come guarda, in galera? Guarda. Proprio lei lo dice, ministro, in galera. Guarda, una cosa veramente, poi sai cosa ho pensato di una verità? Cosa? Ma è vero quello che hanno scritto i giornali, che la Serenova è andata in Brasile proprio io. Eh sì, con la maglietta. E con la portagliella, e quella portagliella, io. Ma guarda, ministro, ma quella portagliella è come un colpo, guardi. Una cosa, io sono disperata, no? Mi sono fatta pure la cacio e pepe, ma adesso non ce la faccio a mangiare. Guardate, sapete che io l'ha faccio? Presa male, Parenzo, l'ha presa sapete male. Sapete che io faccio io? Parenzo, l'ha presa male. Ma non si perde, Parenzo, ministro. Ma questo ministro è incredibile, cioè si adira e si scalda. No, ma Parenzo, guardi, non mi provochi, perché sono proprio, guardi, non ce la faccio più. Sai che gli farei io a Brandelli? Così. Io gli dio a rotula e ci faccio il mouse. Poi vado da Balotelli e gli parcheggio la mano in faccia e gli faccio vedere contemporaneamente al Colosseo e Montemario. Ecco, mamma mia. Ministro. Cose, in galera, questi vanno andati immediatamente in galera. Ma in galera, proprio lei lo dice. A lavorare. Però per fortuna c'è una nota positiva. Qual è la nota positiva? De Rossi ha giocato divinamente bene. Ma quale divinamente? Hanno giocato tutti male. Ma hanno giocato tutti male. Adesso viene fuori il suo essere laziale. Ma hanno giocato tutti male. Ma no, ma hanno giocato tutti male. Lei è tendenzioso come una certa stampa grillina, lasci perdere. Vabbè. E quindi De Rossi ha giocato per il resto una cosa vomitevole, indecorosa, vergognosa, in galera. In galera, vabbè. Anzi, sa che gli dico? Io gli dedico pure una canzone. Prendere. Qual è? Qual è? Te ne vai o no, te ne vai sì o no, eccoci. Ma ministro! In galera, guarda, io non ce la faccio più. Vabbè. Quest'oggi è una cosa incredibile. Vabbè, arrivederci, la lascio, è troppo incazzato. Non è moleste Moschi. Oh, mi stanno sottolineando giustamente che Lignano Sabbiadoro è in Friuli e non è in Veneto, Sì, è vero, perché c'è Jesolo che è in Veneto. Jesolo è in Veneto. Ma sì, vabbè, mi sono confuso tra Jesolo e Lignano, non mi rompete i coglioni, dai, su, mamma mia. Capra, sì, vabbè, attaccatemi, ho detto Lignano. Non devi dire cazzate. Vabbè, dai, su, dai. Marco da Padova, dai, Marco. Ancora. Marco, buonasera a tutti, soprattutto Parenzo che è padovano. Allora? Beh, allora, che si dice? Bitonci qui da una settimana che c'è, io non ho votato Bitonci, non mi faccio problemi a dirlo, ma diciamo che se il buongiorno non si vede al mattino non si parte bene. Al di là dell'ordinanza antiaccattoni, che è durata 3 giorni e poi sono di nuovo tutti lì, sì. Dagli incroci più grossi, tipo Stanga e tutti altri che probabilmente conoscerà benissimo. Però la seconda è stata quella di aprire, o comunque di proporre di aprire subito tutte le ZTL. Vabbè, però adesso, del pieno centro storico. Marco, sono passati pochi giorni, non si può dire né in positivo né in negativo. Vediamo. No, sono assolutamente. Se uno vuole stringere, secondo me, se uno qualche mese vedere cosa se fa. Uno vuole però stringere sulla sicurezza, se uno si vuole stringere sulla sicurezza, secondo me male non fa. Male non fa. Assolutamente mi trovo assolutamente d'accordo. Poi bisogna vedere come, dove, se le cose che si applicano poi si fanno veramente, cioè se le cose che si fanno poi vengono applicate. Vittorio da Roma, le cose che vengono decise. Vittorio. Ciao Cruciani, sono uno degli imbecilli che a Roma ha votato Lega e precisamente Borghezio, dove ha votato precedentemente PD. Lei ha votato Borghezio a Roma alle europee. Certo. E siamo al top. Io abito vicino a Sette Camini e l'unico che si è preoccupato del problema reale della sicurezza qui a Roma, abbiamo il capo. Vabbè, adesso non esageriamo, dai, su. Che è l'unico che si è occupato della sicurezza. Con 2 Rottweiler, perché per 3 volte non sono tentato di entrare di notte Rom nella mia villa. Lei vive con due Rottweiler. Lei ha lanciato i Rottweiler addosso a questi qua. Certo, sono entrati nel mio giardino. Cosa gli faccio? Gli apro la porta di casa e li faccio entrare dentro casa? Bellissimo, Parenzo ha lanciato. Ha lanciato i Rottweiler. Meraviglioso. Ma no, vabbè, se uno ha subito. Siamo un top, furto in casa. Devo lasciarvi. Ci sentiamo domani 18:30. Anzi, no, lunedì 18:30. Ciao. Ma ve ne dovete annare? Ma perché? Ma se ve dica annate, ve ne annate. Ma perché no? Se ne devo annare? E bisogna ve ne annate.